l'emiciclo. Lo sai che devi stare a casa. Ma si abita l'emiciclo? Ne arrivi un molto forte per essere all'emiciclo. E tu dove sei? Io sono a Sassari. In che zona? Prova, prova. Prova radio. Prova. 1, 2, 3, prova. Vabbè. Attento figlio. Che ti va a dire tu Giacomo? Tu ti dai, ma la base della palla. Sera. Ciao Gianni. Ciao, no, sono Gianni. Ah, ma adesso mi per Gianni, ma ciao Costa, buonasera. Ciao Lu, buonasera, buonasera a tutti, non so che ci sia, ben arrivato. Sì, questa faccio un pediti dal poker, non ci più piano, boh. C'è Eugenio da Porto Torres, Costa. Chi? Eugenio da Porto Torres, capisci a me, frate? Non conosco nessun Eugenio. È un genio. Ah, allora sì. Non te l'hai mai furato macchina in Costa, tra... no. Furato no. Avanti oggi, ora si prende a parte il Jack Daniel. Ah, io si cosa volevo, non faccio un whisky, non mi piace a me. Guarda, se dovesse capitare che magari c'ho proprio un bruciore di stomaco, magari ho mangiato un qualcosa, un goccettino, vedi? Se no, per carità, no, no. Ma tu non hai capito, gli arleisti con il Jack Daniel, come te l'arli la benzina, hai visto? Ma io compreso cosa, si sente un po' male, cosa hai detto? Aspetta appena, ho detto che Eugenio col Jack Daniel come la benzina per l'Harley, capito? Lui essendo un arleista associa il tutto. Ah, ecco, si rimane a riserva senza via di pia, così? Si rimane a riserva, mi sono riservato io, continuo a camminare, capito? A chi piace, a me no. A me piace lo stesso il Jack, la verità si dica. E vabbè, dipende da persona a persona, comunque, vabbè, a me piace molto la crema di whisky. Puro zigaretta. Lo so, vabbè, comunque a pranzo me la sono bevuta senza filtro, buona retta era. Cazzo, se l'amico è in pulla così, in usa normale, ti tocco tutta la sera della piscia, e ci chissà no. Tanto può fare già chissà, non ha risolto il problema. Infatti, è forte chissà, ma risulta, non so se l'hai mai bevuta, Sì, sarò bevuta, Eia. Attenzione, Gianni doppio rombo, che mi è. Dunque, se un attimino, la stessa cosa, no? Sta a posto, così, ok. Se voi non vi volete scendere dentro la macchina, che cazzo domande mi servono oggi? Ti vuole un carro di macchina, che cazzo è un boss? Un carretto che è boss, un voi è boss. Perché da lì anche da prodotto albero le scaricano lì. E loro si sono rifiutati in automatico, tutti alla maison, cazzo. Vabbè, pagate i senti. Ma come non ci visto di là, pure va di bene. Vabbè, penso che... Quanti anni lo fai Costa? Qua dove sono adesso, in questa azienda ci sono dal 2005. Ah, 2005, ah, 15 anni, vale dei dì. Tu c'hai tutte le patenti così? Cappa, sono 95 che guido. Cappa, vabbè, a me sarebbe piaciuto, ma provo a guidare il tram. No, proprio l'unica cosa che non me l'abbia dovuto fare. Vabbè, vedi, a gusti, non so. Ma a te piace viaggiare, la puoi avere la patente, vabbè, una cosa mia, personale. Sì, no, ma infatti, guardano, io quando sentivo gente, Lubul, ma grande, tranquilli, c'ho una patente anche per quello, ma non me ne è mai fottito nulla. No, Lubul, ma no, il tram, là. E va il tram, ma giri in città, cazzo che va in città? In città ci può girare quando vuoi. Lo so, Costa, è una cosa, tanto sempre travaglio, non è che... Senza dubbio, ma se dovete scegliere, vado in un posto, posso scegliere uno di viaggiare dove magari non ci puoi andare sempre, no? In città, proprio se in macchina, mi cambiano di parte via. Vabbè, pur due ragioni. Mi sa che domani però ci devo andare per forza, però rischio e pericolo. A prendere questo spinotto mono. Lo spinotto mono? Dove vai? Da Fusaro. Vai da Fusaro che ce l'ha, me lo prendi uno e poi passo io a ritirarmelo da te. Sì, Acosta, se esco sì. Perché lì, che cazzo, lì sei andetti? Cosa gli dico? Basta farti, se tu ti fai un foglio, che foglio ti puoi fare? Il foglio ce l'ho Costa, l'ultimo ce l'ho preso stamattina. Sì, ma come motivazione intendo. Infatti chi su di vendi, cazzo, non sta banda, quindi 2 euro di spinotto, cazzo, prendiamo una multa di cosa 2 euro. Ma guarda, io stamattina sono andato, ho ritirato il camion da officina, ce l'ho sceso a Porto Torres, mi sono gastato la bussudorra, c'avevo quel foglio, comunque per il fatto di lavorativo. Sono entrato a Sant'Orso, ho aggiuvato 2-3 tappi in Sant'Orso, ho sgutturato, non ha giuvito anima viva. Vabbè, tante così, gli ho rubato il messo, tutto... cioè, va bene, ma quando che giustificazione c'è? Non puoi pulire, se vuoi comprare uno spino, tacchi la bassa in te, non la bassi no. Cazzo costa, cioè. Quando era ieri, Cassini c'erano i carabinieri, ma mi hanno guardato, però non lo vedono meno fermato. Qua via Marghinotti. Ascolta, prova a telefonarci la Fusa. Ma per che cosa? Per vedere se ce l'ha. Già ce l'ha costa, a voglia se mi dà. E l'ho io costa, però è attacco grande, mono. Cioè attacco mono? Allora, attacco mono, allora. Cazzo una giunta, allora mia zitta. No, io c'è serio, zitta. No, sono questo forse di chi, vedi? Allora, no, in mano. Ne ho tre grandi, di cui due attacco piccolo, serio, con l'ingresso grande e al contrario. C'è l'attacco grande e l'uscita piccolo. Sei niente, ho capito, a te ti serve entrata piccola e uscita grande, così? No, a me serve piccolo piccolo. Ah, piccolo piccolo, no, se capita che ci vai comunque, a me grande grande, per le cuffie grande. Forza, forza, ah, grande grande lo vuoi tu? Sì, io uso quelle cuffie stereo, capito, quelle grandi. Ah, no. Allora, questo qua è grande, piccolo. L'ingresso qua è grande, piccolo. No, non viaggi, se tagli da due, volentieri ma non ce l'ho. No. Ma vabbè, se capita che vai, se ti mi fai la cortesia di ricordarti, visto che sei lì, se dovessi andarci, comunque intendo. Sì, se nel caso già te lo compro, tranquillo. Volentieri, non c'è problema, se vado, sarà difficile, Sì, la verità, stamattina mi sei uscito proprio da capo, perché rientrandone da cosa non mi potevo fermare. E invece mi gioco a metà, quando voi mi giocavo a andare in radio, ci mandavo. Se no vedo a due. Sì, aperto. Sto sono andato a comprare l'alternativo con un signore, dal padre della mia amica, dell'aperto. Se no si potrebbe provare anche la grassia predanieta. Sarà difficile. È un musogio in chimica, zona, tu serrato. Magari chiuso, infatti. Ma non hai visto Giovanni Angiolini, se lo conosci, quello del grande fratello. Fatti sarra tutto, mi ha fatto sarra la Usciana, ha fatto sarra Decathlon, ha fatto sarra Carrefour. Predanieta è nel curvone che c'è prima di Pinocchio l'autolavaggio. E l'insegna c'è, ma mi sembra che ci sia il coso della Disguise solo, E via. Positivo, positivo, positivo, grande, positivo, positivo. Allora, stavo cercando stamattina, Costa, ora se mi puoi aiutare tu, adesso che me ne sono ricordato. Ho il tuo Massimiliano, un alimentatore di quelli, con lo strumento, però non digitale, analogico. Cazzo, questo è un pacco di là, cioè, oltre 100 euro. Lo so, ma che l'hai comprato tu, hai usato un 10 amper, l'hai pagato un po' di là. Sì, che 10 amper, no, non è fortuna di isso. Io ne ho due da 25, capito? Però questi qua sono ben pesanti, io parli pesanti, boh, 30 kg. Sai cosa li fate? No, vabbè, io ne voglio uno piccolino costa, perché mi serve da mettere qua sotto, perché è un barrasone. Poi difettoso, dai. Sai, ho capito. Cazzo, 123 euro mi pare che costa. Quanto? 123 euro. Nuovo? Allora? Cazzo, mi capivo tanti anni fa. Io ho appena comparato, si può dire, ma tanti anni fa, tipo, boh, forse 20 anni fa, o 15 anni fa, vabbè, l'avevo comprato, e poi mi sono di là, mi ha giù venduto, l'avevo pagato 70 euro, e arrivo di 50, un affarista, insomma. Ma sono pentito, non vedo più nulla, oh, avanti, Eugenio, metti in moto il trattore, io. Ma che tu adesso a rientrare se ne parlerà, ma non c'è, non credo che abbiamo bloccato le navi. Ah, Civitale del Capolotore si fa, cioè. Tutto l'anno? Ah, prima non c'era però. Ah, ho capito, via. Cava capa. Ci sei smuffito, la giù famiglia. Se no, la prima pietra l'anno, non giocato. Ehi, costa, una paranoia, no? Sono un bel vittorio, capito? Io me l'ho bevuto a pranzo perché adesso inizia il caldo, esatto, avevo un gribato, l'ho passato quando stavo facendo prati sintetici. Ah, mamma mia, quante si farava questa cosa? Io da cosa là sarei più corto quasi a casa. Beh, è normale, poi il caldo ti attira, la birra fresca è buona. Cazzo, sei buona. E poi lunghi viaggi, tipo 200 km, 250 km, circa, da. Capito. Tu già l'hai masticato, no? Sì, qualche chilometro da Ruga Burunoia. E scendi pure a Cagliari, sì. Cappa su. Un lavoro duro, mamma mia. Sta mai viaggiando di vita assai. Però va, mi sono divertito, sono sincero. Abbiamo dormito lì anche. Bello, bello, una bella esperienza. Pesante lavoro, Castellina Parecchina, ti vai, cioè, ti distruggi la schiena. Perché è un bel pesante. Quando cominciano a tornare le macchine, dovremmo a Cagliari, mi sono andato macchie passato in Cagliari. No, non ti posso portare, io, perché cosa vuoi fare tu a Cagliari? Sei positivo. Che cosa? Non puoi essere nessuno? Cosa metti a Cagliari? C'è il treno da Sassari, ti porta sia a Cagliari, che va si cambia? Che cosa? Non puoi essere nessuno? Qui noleggio con conducente che viaggiano tutti i giorni. Ah, stavo dicendo una cosa, perché non puoi essere nessuno? No, no, negativo, se non fa parte dell'azienda no. Ecco, tipo magari, vabbè, figli proprio zero. No, no, proprio zero nulla. Propagazione oggi non si sentisce. La giornata penso che sia, cioè penso è calda, no? La giornata è calda, ma ciò vuol dire che qua non ha girato comunque gatta, no? Una volta stavo rientrando da Mamento Sira da Olbia, da Diero Lu, ed eravamo al telefono con un paio di amici, Massimiliano e un altro. E non vedeva nessuno il baracchino, no? Massimiliano c'aveva il baracchino allo scavatore. E va via ho quel giocattolo che ti ho fatto vedere ieri, piantato. Aspetta che provo a fare una chiamata. E chiudo una passata di... Faccio una chiamata praticamente, seconda marcia, Zabri di Chiagosa, un demonio, un corpo, tutti i figli diventati. Addirittura. Domanda Massimiliano. Già va bene. Ma tu mi sai che non è più nel camion, no? No, in camion ha 2 anni che non ne ho, ma adesso come rientriamo faccio l'impianto. Beh, perché ti sentivo ogni tanto, là, entravi. Sei gatto. Vabbè, io la mattina prima lo diciamo, facevo roba, adesso dovevo aggiustare qualcosa, stavo a casa e lo usavo, ma adesso. Vabbè, adesso sì, perché sono a casa, non posso scendere a fare il peso, però l'accendevo, sentivo Giovannino la mattina, a Giro Vulcano, e molte volte ho sentito la cosa a padre figlio, a Crescio. Fortunato. Ma metteva a fianco a me Fortunato, tantissimi anni fa. Cala, cala. Mi davo fastidio col baracchino. Ti davi fastidio? E il televisore. Ehi, vabbè, c'è un babagare. Da tutti i canali, mi tende a... Cazzo, Giro Canale intende a te, Giro Canale, poi c'avevo questa antenna, una BA27L, se l'hai conosciuta, quella senza radiali. E positivo, li facevi TV, hai da? No, appena. E vabbè, poi c'avevo un baracchino, tutto scacciavi tanto, cazzo, un abitatore. Aspetta, che stavo parlando, non ti ho sentito, cos'è tu? Ho detto che c'ho un baracchino, scacciavi tanto con l'abitatore. Intenzionato disoccupi. Intenzionato sono, se farmela costruire oppure comprarla, cazzo, ma costa un pacco di dinà. Per che cosa? L'antenna per te lu? No, no, per metterla giù da 25. Ah, ho capito. Questa costa 100. Quanto è luce? 100? 180. E dove la vuoi mettere? Giù costa da Santa Maria di Pisa. E io, ma nello stesso palazzo tuo? No, io abito al monte, costa. Ah, tu abiti al monte, quindi la vuoi mettere nel palazzo giù dove c'è la tua compagna, là? Positivo. Sì, oppure, adesso vediamo, là, perché c'ho un'antenna, però non vale a niente, là. Sì, ci parlo con quelli tipo Claudio, quelli di zona, là. È capitato che c'è la propagazione, però nada, non voglio antenna. Lo so, perché c'è il terrazzo e poi cosa vuoi pretendere con un radiale di manto fa, no? Per pretendere. E allora, ho messo su una... Aspetta, ma forse c'è una foto, aspetta. È un giramento di palle. Non vedi travagliato oggi? Cavagava, era ora. Ehi, ehi, speriamo là che... Ci arrivi una bella passata di caldo, non se ne affutti nuda che ammazza il suo virus, è un casino, perché oggi ho visto poco fa, cacciata intubata, allucinante, mamma mia. Infatti ha detto state a casa, perché se intubati non è una cosa bella. Poi la terapia dura 15 giorni. Quindi tu non vai ad abbassare il caldo, no? 26 gradi, Non bastano, ci vogliono tipo 30, una passata di caldo, 35, 36 gradi, 37, ti ammazza. Cosa avete? Avete l'aria e non è un'altra passona, no? Sì, però 37 gradi ti ammazza, come mai in Florida, anche io che per caso non la mocio? Oh, così Disney, break? Sarà al telefono, guarda. Avanti, c'è stato un break? Chi è? Buongiorno, buonasera. Ciao Nicola, hai fatto da 1 a 9. Io ti ascolto, dai, gli altri sicuramente non ti ascoltano, non ti ascoltano. Gustavo, lo senti? Io lo tiro fuori più pio, chi è? Lupo Grigio? E io. Lo tiro fuori più pio, dai. Capito, Lu? Non lo so, l'importante è che si avvia, che si innandia, che si vuole dovrà travagliare, perché sennò la cosa possiamo riavvio, è tutto fermo, l'economia è tutta ferma. Speriamo. Eccola, vai, avanti. Ah, ti ho fatto la batteria al piombo, dai, tu mi dai la pesca. Da segnale oscillante. Ma lì il discorso è come io ho le condizioni mie di giù, diciamo, dai, io meno male riesco a parlare con tutti, anche se arrivano un po' basso, arrivo un po' basso, lì ti mette un'antenna piccolina, un dipolo, un qualcosa, è un baracchino fisso, cosa ne so, quello che vuoi tu. Con un portatile, io con portatile parlavo nel 90, non mi ricordo, 92 mi pare, 90-92. Positivo, dai, ho girato un attimo a 45, vediamo una sigaretta, vuol dire la cosa può chiamare. Come costa una sigaretta? Ho girato a 45, c'è cioè Ian e sigaretta, lo spagnolo, vuol dire la cosa può chiamare. Raga, il suo, come si fa, zeta? La... Tic-tac... Ah, tic-tac la culita. Se poi il capo. Chi se si fratta, un altro e mezzo di fumo, da poi si ha fumato il fumo, si fa zero, che cannone che è, se può lavorare a chi, ok? Prova. Sicuramente, io penso, è una mia, un mio pensiero. E poi tutta la sua, si ridi, tutta la sua faccia. Oh, oggi riprendi. Poi mi sembra più una birra, mi cazzo. E bittino, tu si prendevi dell'ansia. Oh no, da stanotte, non la dico, no. Io sono 12 anni che ho smesso di fumare, tu cannoni, cannoni di più. Oh, per carità, no, niente fumo, niente roba pesante, nulla, non fa, non è cosa che posso, come si dice, da poi ve lo dico. Appena trovi le parole, avvertici. Sì, adesso te la cerco le parole incrociate. Attenzione, Mundose, Massimiliano, se tu ascolti Luca, aspetta, sono abiti, il camionista, un'altra audizia. Avanti, Nicola, comunque attrezzati, dai, piano piano. Allora, l'abbiamo sempre detto, inutile che uno ha una radio da 10.000 euro, faccio un esempio, quando non ha antenna dove puoi andare? Tu sei la stessa cosa, tu hai un baracchino che non ha antenna. Guarda, arriviamo alla penaglia per dottore, se c'è un'antenna sul tetto da 7 metri, vedi un po' tu. Lì sì, e beh certo, è normale, ma vedi adesso da Costanzo non ci arrivi, e Costanzo non è distante da Sassari, Beh, costa, devo dirlo un'altra volta dove ti trovo. Io mi trovo a San Camillo, Lupo Grigio. È copiato, oh, Nicola Costanzo. Comunque ti ho detto San Camillo. Lo so, ma... allora, il discorso è quando c'è propagazione che è alta, tipo 9, a te non ti sentiamo manco da qua. Vedi un po'. San Meno. Sì. Si conferma, là. Si conferma, vabbè, piano piano, come ha fatto Roberto Quadrato, ha iniziato con un portatile, lui prima a sentirlo, adesso nel, non mi ricordo in che anno era, comunque 15 anni fa circa, da, periodo d'inferno eravamo, ottobre mi pare, ottobre novembre, adesso non mi ricordo, vabbè, e lui ha iniziato con un portatile, poi piano piano si è attrezzato, e si esce bene Roberto, c'è un'antenna grande sul tetto, ha fatto un capolavoro. Così ha fatto lui, così dovresti fare tu. Avanti, Costa. Sì, positivo, ma il giorno... quello che deciderà di attrezzarsi non c'è problema, ce n'è roba, quanta ne vuole. Guarda, ti può prendere un baracchino, non so, vedi un po' tu qualcosa, ma ci procura, dai, a voglia, la troviamo noi, non la trovi tu, la... un baracchino, un pezzo di filo, si trova tutto. Sta parlando. Già finisce, dai, riprendi Eugenio, riprendi tu. Allora, ha detto Eugenio che gli americani dicono $1 per il baracchino e $5 per l'antenna. Castello non intendo la marina, un'antenna fuori. Assurdo. Vabbè, io sono in una posizione, purtroppo i palazzini mi chiudono un po', dai. Se no avrei preso neanche. Se metto un'antenna, anche se piccolina, sul tetto, io ti faccio vedere che riesco a parlare anche con un Bruno Torres. Però se sta piazza un'antenna, ce la piazza come Dio comanda, no? C'è uno filo di radiale. Siamo solo noi tre, Nico. Ah, è bello il look, Cattivo Eugenio, adesso è rilassato dopo quel Jack Daniels. Beh, dopo parlare dei brutti, sono più brutto io, là. Sto 45 anni, sembra che ne ho 81. No, più giovane della rotta, no. Costanza è più giovane di me, poi c'è Massimiliano. Mi sa, più giovane di me sei Costanza, sì, mi sa di un anno. Boh, io sono del 75. Ma io sono del 74. Faccio 46 a dicembre, se Dio vuole. Quindi 73. Vabbè, più giovane siamo noi, dai, io Costanza, Massimiliano. Poi Eugenio, poi chi c'è? Vabbè, c'è Daniele. Daniele Di Chieri, che è più giovane di noi, dai. Molto più giovane. Cioè, alla fine, dai, il più vecchio è Caso Salviero, dai. Cassa di quella. Beh, si conferma. Anzi, più anziano mi sa che dalla frequenza è Gio Maria. Sì, mi sa che è lui. Poi vabbè, c'era anche Mario Mao, insomma. Già ce ne sono, dai. Ce ne sono. Ecco qua. Scusate un attimino, questo lo mettiamo così. E questo così. Ok, avanti, Costa. Ah, guarda Costa, adesso glielo chiedo. Sì, dopo le 7 entrano lì. In 3, 4, dipende. Però una cosa, sono qua a casa, sto abbandonando la mia 25. Perché tuo figlio dov'è? Mio figlio lavora lì, ma lì a cosa? A Sassari? Sì, io a Sassari. Ah, ho capito, via Carlo Felice. Ho capito. No, vabbè. Purtroppo un discorso che quando sei a rischio, dai, no, non fa. Io l'ho rischiata sabato, sono andato, ma ho rischiato. Ma guarda, io ho capito, perché uno si è abituato, uno che ha pensato, ma addirittura in teoria solo comprime, perché io praticamente comprimeva nel senso, stava due o tre giorni, poi entrava a casa, portava la gente di ascolta, lavavamo, e poi ho detto no, però ragazzi. Vabbè, dai, bisogna aspettare, bisogna avere pazienza. Io pazienza non ne ho, ma comunque sono qua. Per me non è un problema, non è che c'è tutto questo bisogno, eh. Anzi, ci fa bene un po' di distacco, eh. No, in terrazzo. No, non ti sente, no. Quando ti arrivo io oggi a te, guarda un po', fa la cortesia. E sono a minimo di svato, guarda un po'. Santiago 3, 11 watt. Dove stavano 5? Marchino, 5 euro per l'antenna. Infatti, sta arrivando segnale 5 tu a me, ma. Oh, Luigi. La vendi a Nicola. E alla si occupa di Gianova. Comunque gliel'ho chiesto a Costa, se vediamo se mi risponde. K. K se trinca. Tu quanti hai Costa pirichiri con l'elicottero dentro? Non bene? 4. Che cazzo? Avevo chiesto a cosa se me lo vendeva, ce ne avevo tu io. Era, ne voleva troppo, no? Non potevo spendere quei soldi, un 48. Ma con 400 euro io. Sì, sono, vabbè, 300, dai. Ma io radio da quella cifra non ne ho, No, vabbè, e poi ho fatto questa affare, oddio. Ma se riesco, credimi, se riesco a trovarne uno nuovo, che si è messo bene, ci scambio tutte le, come si chiama, i tappi, la cornice, tutte le manopole. Faccio diventare nuovo questo, però questo qua ha anche il difetto dello spinotto delle cuffie, no? Quando lo stacchi non mi dà l'audio. Allora con il potenziometro mi devo giocare, perché se no non esci, non si sente. Ma quello dove stai, un po' te lo vendi e te ne compareggi uno che si devi. Potrei fare anche così. Ma non si vuole più tutti questi di là, capito? Cazzo, un po' quelli di là. No, un Typhoon 2. Ma anche che non sia 2, anche Typhoon normale. Per pezzi però, cioè, ma se è messo bene, così faccio diventare nuovo questo. Costa, chi si va a vedere voi, costano un pacco di là. Guarda, io qua ne ho uno, quello che stavo usando ieri, che sta con le modifiche, che solo di modifiche vi so 350 euro. Sta giù di tutto. Infatti, no, non ci rispenderei mai. Ma cos'è, il 48? No, 48 non ne ho manco uno io. E cos'è quello? Questo qua è un Cobra. Ah, Cobra, mai disgrazia. Mai visto, boh. Quello dove ci ho speso 350 euro, 87. Ma c'è gente che ha speso un po' quelli di là. Adesso, per esempio, c'è, non è più entrato, Barra Agricola, se non l'hai mai sentito. E c'ha due baracchini modificati di Luigi, quelli escono bene. Ha pagato. Avanti. Perché il mio male, buonasera. Che tu esce bene. Luca, stavo pensando che stai cercando per l'ala 48, io quindi ce li ho, però dell'ala 48. Ho capito già. E pensavo che stessi cercando le manopole per l'ala 48. Quelle ce li ho, però non ho quelle per il Typhoon. Il Typhoon non so come ce li abbia. No, il Typhoon ce l'ha nere, no. Negativo già, non vanno bene. Dai, riprendete che vado a portare, anzi vi faccio portare la canna a pisciare. Kappa. Ciao Costanzo, buonasera, ci sono tutti i tuoi amici, dai, sono entrato così di brutto senza ascoltare in cena. Ma mi sembra che ci sia Eugenio, tu Costanzo e poi mi pare c'è aver sentito a cosa, Lupo Vigio. Avanti Lupo Vigio se ci sei e poi fai girare. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito, dai. Ciao Costante. Kappa. E poi chi c'era? Eugenio, avanti Eugenio. Kappa. Vedrai Lupo Grigio che se metti l'antenna capperà tutto. Vedrai io e l'ombrellone lì devi mettere la stufa a pelle. Senta chi per freddo va. Thank you. esempio di Romano della Sociale Isola della Sardinia, adelante per un comprendito, per favore. E basta ancora lì. Sì, sì. E arrivano 9.30. Sì, sì, sì, sì, già riusciti, ma poi non ce la fai a parlare. Kappa, ti vedi più nervoso quando riesci a parlarci, di sì. Appena arrivano le voitire lo facciamo ripartire. Stamattina ho ritirato l'officina tagliando eseguito, allora è pronta la partenza, Kappa. Quant'è tagliato per un trattore, quanto viene costata? Che cosa? Tagliato per un trattore, quanto viene? Ma non te lo so dire, questo qua non te lo so dire, non vediamo né fatture né niente. Io glielo porto, poi me lo ritiro e fate tutto con l'azienda. Ma se costa 350 euro invece della macchina lì, dice quanto costa? Mi dà una mente, 1500 euro. Presumo che li passi pure, però non di preciso non te lo so dire. Non stiamo caricando macchine, ho detto appena ripartirei il lavoro, sono già pronto, no? No, no, a piazza la Porto Torres il cane. Oh, anche se me lo per riposato anche con voi, dai. Ma vi pagano lo stesso il vostro? Cassa integrazione siamo già. Vabbè, meglio di niente, dai. Sì. Però almeno la mattina nella divisa Kids o c'hai la sveglia incorporata? Ormai la sveglia incorporata. Beh, io a quell'ora mi discendo. Adesso mi hanno fatto il numero di telefono, sono andato a rispondere, hanno aspetto, non è che stanno occupando le telefonate, ma a parte la tua linea, che ha pagato, e che non avevi, e io va bene, dai, adesso ci c'è il lavoro, facciamo lavorare i contadini, quelli che hanno lavorato la zona industriale, che hanno mollato il terreno, e poi ci ha fatto senza di là, a chi la zona industriale ha chiuso, e loro hanno mollato la campagna, adesso riprendono a lavorare e coltivano per noi. Avanti, chi è? Ciao, non è, buonasera, con che cosa sei, con il Galaxy? È un po' bassina come radio, Antonè. Segnale 4, la radio ti posso dare 4 lo stesso, ma essendo generoso. Passa, Antonè, passa un attimino sul altro canale che qua abbiamo, andiamo su 13, dai, scusate un attimo. Io qui ti dico a rivenere. Defi, tu defendi, va. Oh, Lucani non ha riccato, là, sono qua. Cappa, cappa. Ti piace lui? Sì, sì, bello, bello. Sono bello la parecchia. Allora, io avevo fatto le mani, siccome questo signore che entrava prima, Falcone, Erwin, pari, padre di un mio amico, no? C'ha lo 2001, nuovo, nuovo, ma non me lo vuole vendere. Ma originale? E allora, avevo venduto, sì, un ricordo. Cappa, cappa. Quello si poteva anche modificare. Davvero? Eh? Sì, davvero. Ma però? Davvero? Eia. Massimo, deve essere. E Massimiliano? Ehi, buona, buona. Stiamo andando dallo scavatore. Cosa? Dallo scavatore stiamo andando. Ehi, perché lo scavatore? Dal gas o giù? Lo so, sto scherzando. Ehi, ciao. Cos'è? Massimiliano. Eia. Cos'era? 5 ottavi quell'antenna che avevamo portato in macchina? Sì. Che appartoggio. Dunque ho chiesto, non se ne ricorda. Vabbè, comunque, mi interessa Massimo, sono 5 ottavi. Ma tu devo offendere, vale, con parolacce, guarda. Però non si, boh, i messaggi su messa, madonna, Guido, comunque, niente, adesso mi ha risposto, aspetta. Ma come ce l'hai? Non ti capivo perché avete parlato di 60. Sì, io sono appena tornato a casa adesso, sì, da lavoro. No, negativo. Nessun decreto per la nostra azienda. Infatti manco la luce, ma di un razzo. Mi stavo mangiando un pezzo di salsiccia con un bicchiere di vino. Adesso i 10 minuti e poi faccio la luce. Chiama. Bagna, bagna. Mi ha regalato un ciombo di quelli di Pucabu, quelli presi da via Calopoleno. Quindi fresco fresco anche, buonasera. Cosa? Ho detto quindi fresco fresco, buonasera. Io ciao a te, freschissima, freschissima, buona, buona. E l'unica cosa che ha sbagliato è le ha messo troppo pepe, quindi ci vuole un bicchiere di vino in più, capito? Tu hai detto. Abbavito a chiedere due microfono, magari va andando se bisogna da saveva. Avanti Lugarie. Come stavo chiedendo se riuscito a smontarla costa, è sempre così. Come l'abbiamo portata? Ah, ho capito. Come, vabbè, dai, niente, allora, se ci sta, io ho una Ford Fiesta, non credo che finisce un bel dalla macchina. Ah, ci sta, te la devi davanti e è tutto a posto. Sì, della Massi come l'abbiamo portato? Secondo me ti conviene regalare in tram, la gente dal finestrino dove guida il tipo. Sto in tram, Massimiliano. Stava cercando l'antenna, Massi, gli ho detto di venire a prendersela. Caso me è lunga, ma un meme. 5 metri. No, 7. 6 metri. È poco di bari. Cazzo, una macchina tua già che è lunga. È la tua macchina, figurati da fuori di finestra, invece di 6 metri fu. Ma ci sta in macchina, lo stai dicendo adesso. Già ci sta Luca, cazzo, se ti so così dicendo che vesciate, mamma mia. Sai cosa fai? Apri il cofano di dietro, le infili da lì, ammassi il finestrino davanti, la fai uscire a fianco allo specchietto, poi quei 4 metri che escono fuori li leghi il cazzo dall'altra parte. Ma già ci sta che non esce 4 metri, arriva a filo del cofano. Ma tanto mai, vabbè, noi che posso pagare a cazzo, pagiamo un'antenna e pesa mezzo chilo. Eh no, non pesa mezzo chilo, che la parte di sotto è tutta piena di calcestruzzo. Calcestruzzo, che cazzo è? Il pianto di sotto, quello del metro, un metro, e col tubo d'accento l'ha riempito il calcestruzzo, Luca. Sì. Non ci sta. Vai tiro, riprendi tu. Dai, comunque me l'ha confermato, già ci sta ascoltando, è solo che, vabbè, costa, vediamo, dai, se riesco a trovare un furgone magari lungo 12 metri. Tu, quando vuoi, l'antenna è qua, io te l'ho detto, l'abbiamo piazzata, poi ho avuto la mantova 5, ho trovato l'occasione della mantova 5 e l'abbiamo scesa, mi ha dato la mano massima a fare il tutto. E l'antenna è qua, se la vuoi fare ti la pigli. Allora, c'è una mantova 5, no, 5 o 4, o la 1, se non mi ricordo, vabbè. Era di Giuseppe Tornado, ce l'ha lì, piazza da Sacro Cuore, è nuovo a me. Solo che mi ha detto, io, però, se vuoi il sacco glielo chiedo, il tipo che mette all'ultimo piano, rompi balle. Solo se è andato lì me la sei smontata, me l'avevo smontata, 80 pulita, e mi avrei piazzato quella. Ma solo che cioè, non ti fa salire sul tetto. E tu calati dall'alto. Davvero, mi piglio un elicottero di chi si a pagamento. Mi calo dall'alto. No, peccato, nuova nuova, nuova, nuova, nuova. Ma quella lì è un casino. Oh, io posso chiedere, noi abbiamo il pianale, me lo mettiamo gli scavatori, un lupo. Cazzo. Se apre il cofano, se mette, apre lo, adesso mi sono intrippato, apre il finestrino laterale, la fa arrivare fino a dietro, la sopra il pannello, poi la lega davanti come abbiamo fatto noi. Viene scritto la buccia a macchina, non c'è bisogno, né di furgone né di nulla. Io c'è vicino, qui, da dove lui, però un vecchissimo fatto il gol. Un vecchissimo si era rugio, si la biglia, e qual è il problema? Se metti un led lampeggiante a punta. No, rivolo che si cosi da cantieri, Massimiliano, che si cosi che pone dei ponteggi, non ti dissi? Luca, io vivo vicino a San Camillo, sono 2 minuti di macchina, non hai bisogno di cervellarti per niente, ti sei buono troppi problemi. No, non è quello costa, cazzo, non fai un caso in chi c'è una battuta, dove sei vicino all'ospedale? Prima dell'ospedale sono. Ho capito, da. Non è, mi sono pure di troppi problemi, il discorso è chi cazzo, si può tagliare una motosega questa cosa. Cosa tu vieni, no, che una motosega, te la vai a pezzi, caganti, bezzi, minori, ti bari, ti biasi, fino a che ci stanno, anche nel cofanetto dello sportello laterale, poi ti tira la buccia e ti arraci. Ah, sì, la mia è con l'attacco. Davo. No, la vai in moto, la prendi con una mano, così. Cazzo, sei detto che è tutta mia calcestruzzo. E fai il lancio del giavellotto, Pietro. Vai, oggi. Aia. Metti un altro, la fu di tanto. Ma dove te la devi mettere questa cosa? La marina, la 25. Mago, ma dove la devi prendere? La ringhiera? Sul tetto, cosa ringhiera? C'è un cavo anche, Massimiliano. Uso anche un po' di cavo, là. Ma già ti fanno salire su, sì? Sì, sempre c'è la botola anche, non c'è problema per quello. Già, vabbè. Falle una bella cosa, perché che calcestruzzo sotto che c'è un infarto. Che mi voleva un malazzo? Non si sa mai. Ma cosa, boh, non lo so, vedi tu, fai tu, se per sé, tanto sì. Ah, ti vuoi pure lettano, cazzo cazzo. Cosa cazzo è stuzza? L'ho sentito a Luca, già lo so, Luca è leggera l'antenna, ma è lunga però. Boh, su un mazzinetto cosa pulito, non lo so, qualcosa, dai. Così poi mi alterno i malattini, poi mi porto quello l'acqua, cazzo di aggarsino. Ma quello già si è bene l'altro. Guarda, a me dai si è bene, solo che non posso usare, non posso usare la smonta, in chi, anche chi sta, bomba, bimbo. Mi dite a Luca come ce l'ha scesa, avevo un cannao da Rogoso. Non passava mai con l'atterrato dalle scale, figurati. L'atterrato dalla strada, là. Sì, vai a fare l'aperitivo. Cappa. E oggi va, mi buro la doccia ancora, via. Giovanni doppio rum. Avanti, ciao, Massimo. Quanto hai parlato in due? Avanti, Massimo, cosa stavi dicendo? Ho detto, ciao Gianni, ben sentito. Buonasera, dai, 33. 33, non lo sapevo che c'eri comunque, se no ti avrei salutato. No, non c'ero, ero con l'antonello su 13 che stavamo regolando una parata. Se l'ha messo a posto lui, dai. Ti sento un po' satiro già. Sì, con ragione. Confermo, già leva poco a poco quell'eco, però dai. No, l'eco rimane, magari può abbassare leggermente la segretaria. Ecco qua. Chiama. Aspetta che io abbasso un po'. Ero 3 watt, 1 watt, ecco meglio così. Oh, lui ha bugato, senza eco, è molto più basso. L'eco gli dà molta amplificazione, quindi perché lo devo togliere se non sono possibile di... Già, dicono, cioè diciamo tutti, per fare salotto uscire normali, poi fanno tutti i piatti, ma me lo puoi pure la manetta. No, ma già va bene, dai, così va bene l'eco, Gianni è sempre stato così, la verità, io l'ascolto bene. La buca non è biata a cucciare con l'eco, cosa vuoi ti dica? No, a cosa? Che da parlare. Bravo. Sì, per me va bene, Radio 5, segnale 9, ciao Barracuda. Massimiliano Bulldozer qua nelle coordinate lontane, capito? C'hai leggermente troppo eco, se puoi abbassarla poco poco è meglio. Ma no, buonasera, ma non è che accorto. No, questo non si può regolare, al momento lo so, direttamente lo so, ma comunque la radio va bene comunque. Vabbè, anche tu c'hai quel marrasone, ho capito, te lo metto lo togli, sì, vai, lo sta. È positivo, dai, anche qua io lo sento abbastanza bene, segnale 9, Radio Super 5. Perfetto, no, non è un marrasone, già, non era il fatto di battaglia della 27, dai, allora. Però c'è una bella ricezione, poi poi ho visto tanti video su internet, lo trasformano in quanta, è una cosa incredibile questa radio, la roba si mettono dentro. Deve avere persone capaci, poi deve attirare la possibilità di spaziare anche con questa radio e per lo spazio che è internet, non è difficile. Chiaramente per la pena non lo è, però va, è sempre la sua vita, non va a cercare. Io penso esteticamente che è bello, capito? Io ho detto, io sono un marrasone, capito? Però esteticamente è bella come radio. Secondo me radio base così più bella non ce n'è del Galaxy, secondo il mio parere personale, poi ognuno al suo. Ma io ho visto quella di Gio Maria, c'è anche modificata, bella, nuova fiammante, non le fende, bella veramente, è nuova, nuova da vetrina. La presa modificata. Bella, bella, bella, non la vende. Poi se la vede se la fa pagare bene, beh, era pagata, due, non è che l'hanno sigarata. Ce l'aveva anche Gigi Vulcano, ce l'aveva fatta fare, non mi ricordo dove, usciva un bel forte, sembrava un apparecchio modificato di quelli che usano in casa. Però la prerogativa del Galaxy è proprio la radio, a me mi piace come esce di radio, è proprio presente come sei tu, ti fa la voce, non te la cambia per tutti. Gianni, però anche la ricezione non è male, io ne posso dire, vai abbastanza pulita, quello è bello, perché molto la ricezione, altri sono rumorosissimi, questo è perché ha una ricezione top, ma è un cambiamento migliore. Ricezione e anche il volume, c'ha un bel c'ha il volume, ma è stereofonica, c'ha un bel volume nella colonnina, in più la ricezione prende pochi splatter, ma splatter proprio nulla, poco per RM, è una bella radio, a me piace, anche l'occhio vuole la sua parte, dice per quello, ma a me piace proprio vedermi la radio che a me piace. Allora, ripeto, a me piace come radio perché è bella, io questo Legio Maria proprio nuova, come piace a me, è una cosa è nuova, tenuta a conto, solo come dice Massimiliano è un barrasone, io qua non ce la metterei, non c'ho spazio, non so, assolutamente, però è bello come radio. Ma io non ne ho di quei blueprint, io lo spazio ce l'ho. Vai avanti. Grazie per il brutto, ciao Giuseppe, saluto anche a te, in compagnia di Massimiliano, Eugenio da Porto Torres, se Gianni, Costanzo e Antonello da Ussi. Avanti, riprendi Massimiliano. Positivo, vai. Ciao Giuseppe, buonasera, ben entrato. Vai Eugenio, vai Costa. Buonasera Giuseppe, ben sentito. Ciao Giuseppe, buonasera, dai, ben entrato. Io passo di radio, mi sento, come no? È probabile questo. Vabbè, comunque ci siamo tanti, dai. Qua è per chi vuoi, c'è l'imbarazzo della scelta. Cosa dicevo Giuseppe? Stavi parlando perché vi siete sovramodulati con Ossi, dai, avanti. A te, cosa stavi dicendo? Voi siete sovramodulati con Ossi, avanti. È probabile che io Ossi non lo sia, avanti Ossi se riesce a copiare. Comunque a me arrivi il segnale 78 radio 5, la bomboletta. Però l'amico di Ossi no, perché nelle condizioni in cui sono io non è assolutamente non so. Antonello, lo senti a Giuseppe Tornado? Molto, molto, molto vicino. Arrivi più forti di tutti, Giuseppe, scommetti, 9:15. Ma io adesso sono riuscito a copiare l'amico di oggi, ha detto molto, molto, molto piccolo. A me mi arriva 9:30 qua, Giuseppe. Dove sei? San Camillo. Ci siamo, io qui sono aperto, sono una casa di due, posso scambiare lungo in là. Si è appagato. Qua sei 9 da me, Giuseppe. Ma no, voi state arrivando tutti a Cotto e a Condaletta. Se ci faccio, già che ne so, riscolta di quelli. Sì, stavamo parlando del Saturnecco e io ho detto questo, secondo me radio più belle di quelle esteticamente non ce n'è, perché secondo me è una radio bella, però è molto ingombrante, tutto qua. Vabbè, Giuseppe, se vai là in vendita ce ne sono tanti, te li segui e te li metti uno sopra l'altro. Ascolta, ma io lo stavo cercando, infatti, avevo chiesto anche a Antonello Ferraturio se sapeva qualcosa, se sa trovare la gente, trovare uno, e aveva portato io l'altro. Giuseppe, il prezzo suo è 200 euro. Sì, 250 pure. Giuseppe, fatti un giro su subito.it, io ne ho visto qualcuno, eh. Adesso mi faccio la carrera. Anche perché non ci vuole né alimentatore né... Lo so, lo so già, io quando ero nell'altra casa ce l'avrei, e se mi farò venire fuori se mi prendo perché mi faccio regalare. Fatto male, l'apparecchio io ne ho avuto 5. Giuseppe, c'è un 140, 220 euro se ti può interessare. Ma è inferiore a te, come quello di Flavio, e anche la mia, se lo farà più, però è soddisfazione che ha. 220? Sì, magari se mi vale, se vale di più, non lo so, dicendo che vale 3,50. Io sto parlando di un 140, non sto parlando di un Galaxy. Sì, vale, dipende, dai 300 ai 350, io vedo 350 al mio. No, io sto parlando che a 200 euro, 250 euro prendo un Galaxy, capito? C'è sul mercatino, c'è un 140 a 220 euro, e puoi andare da altre parti a ascoltare, puoi fare quello che vuoi, là. Forse Emilia? Oh! Bisogna vedere com'è frontale, se è messo bene, per 220 euro. No, tu figurati, non c'ha neanche il decimale. Ah, sì. Eh? Sì, avanti. Costato, sentite? Sì, sto scendo basso. Dai, se non esci, prova. Tutta costa. Tutta. panel a me Massimiliano, lo sto qua, lo sta vedendo, chi è? Lo sto mandando. Ok. Lo uso per fare ascolto. Ma, Luca, mi senti? Ma sì, prova Costa. Ma mi senti, vedi un po'? Ehi, adesso sì Costa. Come sta uscendo questa radio? Sì, un po' così, Kimi. Un po'? Un po' così, Giochino. La radio la sociale base questa. È un po'... come si dice? Un po' una sera. Beh, sì, te l'ha fatto un fuoco, aspetta, fallo scaldare a te. Ma ci vediamo, chi sta a me? Ah, già sta andando bene. Non è malvagio, là. Massimiliano, là, il discorso è 220 euro qui, ci sta, buon prezzo, perché è un buon prezzo. Però bisogna vedere quanti funziona, cosa va, cosa non ha. Lui è scritto funzionante, però con le condizioni funzionanti, ma bisogna vedere. Se uno lo contatta e chiede informazioni, no? Poi si chiama, aspetta, non vedo bene il nome. Ma qua a Sassari. Aprila bene la foto. So, Edoardo Santoro può essere. Eia. Poi metti su Facebook il mercatino radioamatoriale e la cerchi. Poi uno se è interessato lo contatta e le dà le informazioni che gli chiede, no? Se ci sono qua, eccolo qua, ci sono, ci sono. Per quella cifra più o meno più di un baracchino di Arusaio. Ma bisogna vedere il perché lo sta dando a quella cifra, se perché se ne vuole sbarazzare oppure perché ha qualche difetto. Hai visto che l'ha sfrutto 200 euro? Già, ce n'è gente che se ne vuole sbarazzare nel radio. Quindi non è che ti dice il difetto a te, no. Uno se lo vuole sbarazzare, la buona chissà cifra, magari la date una ghita, la butti e fate un difetto. Diciamo che sono radio che hanno anche 30 anni, quindi non è che puoi pretendere, eh? Sono come le macchine, le usai. Che stava parlando Costanzo? Io. No, sono insieme a te. Da? Insieme a te stava parlando qualcuno, non so chi è. Non lo so, beh dai ragazzi, io vado a farmi la doccia, allora mi riprendo dopo al limite, ok? Massimiliano, dai, buona doccia, ci sentiamo dopo. Ah, io fate girare questa ruota. Avanti, vediamo un po' Costa. Io qua sono. È un po' così con la radio Costa. Sì, questa era spenta da molto, dai, adesso la lascio accesa tutta la notte a vedere. Ragazzi, caldi di candeletti. Avanti, Ruggero, ci sei? Vediamo un po' se c'è Nicola. Nicola, ci sei? Aspetta, mi sta ascoltando. Adesso mi sei arrivato, 9.20 quasi da me, eh? Di solito sei 9.20 sei arrivato, avanti, riprendi tu, c'è Gianni e gli altri, là. Avanti, c'è anche Giuseppe Tornado, riprendi. Non è, non lo senti, è un po' grigio. Mi sa che si è messo a piazzare. Beh, si è messo a chiudere il baracchino, dai, c'è il baracchino aperto. Chi è? Gianni, tu sei? Eia. Che è? Ma tu non stai uscendo mai già? Come non sto uscendo? Adesso sì. Secondo come premo il tasto, perché non sono abituato a questo discorso. Questa è bella la radio. Questa qua? Ma è bassa. Mi hanno detto tutti che è bassa. Ma non è vero. Io ti ascolto bene, sono in cuffia e ti ascolto benissimo. Con l'eco va meglio, pompa di più. Aspetta. Guarda, così è colletto, la vera differenza. Vabbè, normale, come se stai attivando il processore, là. Ma va bene anche normale già, io l'ascolto benissimo. Costa, confermi? Costanzo è con le mani in pasta. Oh, Giuseppe. Io ti consiglio, prima di prenderti la faccia, prendete una bella antenna e mettetela sul tetto, e poi risolvi tutto. C'è la città adesso, non so cosa è fatto. Sono scappati tutti, a chi tocca Eugenio? Beh, chi sono? Chi è che mi chiama? Io. Dimmi tutto Giuseppe. Però mi sai qua non ci arrivi, eh. Prova. Sarà difficile che arrivi qua, eh. Ragazzi, io vi saluto, dai. Se nel caso ci siete, salgo dopo a vedere un pochino, dai. Buona serata a tutti e buona continuazione. Ciao, Costa, altrettanto. Ciao, alla prossima. Luca. E a chi è? Dani. Ciao, Dani. Che beh. Masco, come sto uscendo oggi? Che c'ho Zeno. segnale nuovo, radio 5 da me. Radio 5? Positivo, ti ascolto benissimo. Ma sugli altri, avanti Gianni, lo senti Danilo? Sì, a voi, da 9.25 qua arriva, il segnale in tuo, c'è. Accendi questo... Accesa Giuseppe, va, ma tanto non arrivi qua, prova, va, proviamo. Se stai chiamando non arrivi, eh. Prova Giuseppe. Dimmi tutto, Danilo, Danilo, Lupo Grigio, dimmi. Un po' bassino di segnale, ma già ti sento. Giuseppe, negativo, mi arrivi frustrato. Oh Giuseppe, dici il tuo cosa? Da più sotto di Sant'Orsola a Nord. Minghia, e ti prendo anche bene. No, te già ti sento perfetto. MVC. Un pochino più decenti ti converrebbe mettere. Se ti serve un'antenna un pochino per viaggiare, già c'è qualcuno che le costruisce. Ogni tanto si abbassa molto il volume, ma già ti sento. Ok, grazie a te. Vabbè Lu, tutto a posto? Sì, Adani, tutto a casa, sì, ma aspetta. Comunque Giuseppe, se mi stai ascoltando non arrivi, io lo spengo perché mi rientra il baracchino, mi fa da interferenza. Giuseppe! Giuseppe è tornato, ci sei, cambio. Sì, ci sono, come no. Ciao Giulio, anche a te, buonasera, in compagnia di Gianni, poi c'è Lillo, poi c'è, vabbè Eugenio non c'è, boh, sparito, Nicola, poi Antonio Davos si è assentato, Massimiliano lo stesso, Giuseppe è tornato, riprendi tu, dai, avanti. Ok, ciao Danilo, allora Gianni. Massimiliano si è ascolto, Antonio non la usi lo stesso, Lupo, Nicola, poi la Sassari, e si è rimasto, boh, non me lo ricordo più, va buona, io sono arrivato a Gianni, vai Gianni, con la buonasera. Ehi, ciao Giulio, buonasera anche a te, ben sentito, dai, cordialista. Volevo fare, vabbè dai, ti rilancio a te Giuseppe, poi ti faccio un po' il seo. Eccomi qua Luca, mai risultato? Certo, non ci arrivi Giuseppe, sono a casa da mamma io. Strano, io riesco a parlare con Antonello. Giuseppe, accedilo che ascolto io, dai. Perché Antonello c'ha un antenna sul tetto, io antenna sul tetto non ne ho. Luca, chi c'è di Ussi? Sul 7, erano le 7. Io sì c'è Antonello ma non c'è adesso, là. Volevo fare una prova con lui, a ver se ci arrivavo da lui. Ehi, a voglia ci arrivi. Dici che ci arrivi? Boh. Spara con me la prova che sono più lontano anche di Ussi, sono a IT. Aspetta che la. Aspetta Giulio che ha risposto Antonello. Avanti Antonello per Lillo. Capito Lillo? Sì, anche lui mi rimane basso, tra 3 e mezzo, a volte anche 4. Fai la prova con Giulio. Giulio, mi senti? Passo? Sì, che ti sento Danilo, mi sembra che sia. Io non so se non mi ricordo di averti bucato altre volte, comunque. Va bene. Prendi tu e fai girare, dai, c'è anche Giuseppe tornato mi sembra, ciao Giuseppe se mi stai ascoltando. Ma vabbè che mi hai detto che stai modulando, dai tiri, è tornato che stai modulando. Cazzo paga a di segnale, 9 più 20. No, lo sa, sto scherzando che non sono Iceri, cosa Iceri, siamo vicini, siamo, sotto casa tua sono. Ah ecco, certo, pare che stai scendendo con chissà quanti chilo qua. No, no, no, solo questo momento 4 watt è anche strano, anche strano. Aspetta un po'. Ah, però con 4 watt ci stai uscendo molto bene. Perché siamo vicini con la voi, almeno, almeno 20 km ci arrivi con 4 watt, non è un problema. Che baracchino stai usando, Giulio? Un Superstar 360 FM. Perché non si era accorto che la modulazione era un po' diversa, no? Ok, va bene. Ogni tanto bisogna cambiare qualcosa, così adesso oggi mi permette di utilizzare questa. Così a me non mi fa girare i guanti da piano piano. Ok, va bene. Va bene, no, volevo chiamare Giuseppe. Giuseppe, mi senti il PMR? Penso che l'abbia smesso, figlio. E come fa di nuovo sul 10? Giuseppe, ma non mi ha sentito il PMR? Non più, come fa che non riaccendo? Dai, te ho sentito io, ti ho sentito a te. E tu devi sentire me. Va bene, dai. Chi ce l'hai il 27 da far girare? A proposito Gianni, si è sentito Sandro stasera? No, Sandro non l'ho sentito. C'è Antonello di Ussi, mi pare, in parcheggio. Antonello, hai piazzato tutto? Anto, niente da fare. Eugenio, ci sei? Ha bisogno mai se hai vinto tutta la bottiglia del Jack Daniel, no, un cicchetto giù. E perché? No. Non devi avere paura, abbi fede. Dipende, sempre dipende dagli ostacoli che ci sono, dipende sempre da quello. Se ci sono pochi ostacoli riesce ad arrivare. Io per dire con Giulio li ci fanno. Ma a volte non prendono bene, se ci sono ostacoli è una sequenza un po' strana. Però questo non so perché le aziende devono vedersi come un po' più. Magari se prendono qualche chilometro lo fa, ma non si può dire qualche chilometro, altrimenti non si può dire. Kappa, sì, è così. Vediamo un po', Giulio. Sono qua. Ciao Nicola, ti sento, oggi ti sento. Avanti Nico. E tu sei col cannocchiale che la guardi, giovane. Aspetta che sto solo nel campanello, sto dicendo a tua moglie. Grazie. E allora non è niente. Una volta io ho visto questa qua passando con il cane, mi sono dovuto bloccare con la finestra aperta, nuda completamente, una tipa giovane. Ci aveva fatto appena la doccia sicuramente, poi si è messo sull'accappatoio, ci ha detto ma sono i miei occhi che mi stanno ingannando, che cosa, sono futurata da dentro, ed era vero, era nuda completamente. E a me l'infarto no, ma diciamo che un'altra cosa già mi è successa. Allora era un infarto leggero, non era un infarto grosso, là. E loro ti avrebbero dimesso così. quanti hanno fatto, ma stai fumando ancora? No, no, non è così, no. Perché ho un amico che l'ha avuto, infatti, per lo stesso motivo gli hanno fatto lo stesso suo lavoro, gli hanno messo, gli hanno fatto la sua pratica. E praticamente sta continuando a fumare. Perché? Allora, io penso che ci sono anche i tumori alla bocca, lo sai, vengono i tumori delle gingive. Io ne conosco uno che ha avuto un tumore così perché è fumato. E vabbè, diciamo che è meglio non farlo, dai, direttamente, non è così. Dico la stessa cosa, sono più di 10 anni che fumo. E praticamente ne fumavo anche 2 pacchetti quando andavo a pescare. No, no, a me proprio dà fastidio adesso. Se mi fuma qualcuno vicino mi dà fastidio l'odore. Vediamo un po' se è rientrato. Antonello, ci sei? E vediamo un po', Eugenio. Sono. Chi è? Io. Ah, ciao Natali, no, non sei uscito in radio. Ciao, buonasera, mi Natali. Hai capito l'amico? Ha detto che ha smesso di fumare e dice che uno deve avere lo spavento per smettere di fumare. Gli hanno fatto l'angioplastica a lui. Sì, come me. Io pure avevo smesso, ma dopo preso. Poi la pipa non fa la puzza che fa il fumo della sigaretta, la pipa ha un fumo, un profumo gradevole, tipo Servo di Chanel. Guardi, è morto, ci ha preso praticamente il tumore al palato, proprio tutto il palato, ci ha preso questo tumore dal fumo perché fumava molto. Traffico a Roma lo stesso, è grande. la città è così. Quasi che possiamo, cerchiamo di fare qualcosa per, prima di tutto per l'inquinamento. Adesso vedi, l'inquinamento sta abbassando di brutto perché la gente non sta girando, quindi è normale che abbassi la storia, no? Ma quando sono andato ci ho dovuto mettere la macchina in un parking perché la macchina c'era, sono andato con la macchina nuova, c'è cioè una settimana là, e siamo andati a Castel Gandolfo, stavamo andando ed è tutto quanto, non so se tu sei mai stato in montagna, è tutto quanto quasi in montagna, è passata questa macchina, mi ha dato un colpo, mi ha buttato giù lo specchietto ed è scappato. Io avevo macchine dietro, in fila, davanti, non potevo girare per seguirlo e me ne sono andato via con lo specchietto rotto. Alla fine ho detto, beh, la mettiamo in un parking, la macchina è di ciccia, mi è venuto il malumore, abbiamo preso 7 mesi e sono stato più bene che, infatti ho detto, la prossima volta la macchina ci vuole poco. Santiago no, per me, perché sennò non ti sento. Cavagava. Giulio non c'è più, Giulio Dolla. Non ha risposto, l'ho chiamato e non ha risposto. Dillo, ci sei? Dillo. E ho ripreso, eh? Ehi, Amondo. Mi chiede la ticchetta con la culita, beh, qui non la costa. Ah, io do Marco, spagnolo. Sta allucinante. Tutta la sera si va, arrivi, va, così fa. Sì, sì, ok. Comunque mi sto accorgendo, lui, è cambiato dal giorno alla notte la radio, devo essere sincero. Vabbè, lasciamo così, Massimiliano, non c'è problema, dai, tanto, ripeto, appena vado e compro il microfono, vediamo un po' se la cosa cambia, non so, boh. Tanto sono 15 euro, insomma, 20 euro, boh. Ma che microfono gli hai messo? No, un microfono normale già, però mi ha detto che ci vuole quello della Midland, se va meglio. Io mi sono richiesto. Vabbè, ma questo qui sta andando bene, cosa ti è fatto? Aspetta. Tu non ne hai già, hai detto già avevi un casino di microfoni, vendigliene uno. No, c'ho un Elbex, non ne ho di Midland, capito? C'ho un Elbex. No, microfoni ne ho, ma sono tutti amplificati, non vanno bene per questo. c'ho un airbag. Airbag, ce l'hai presente l'airbag? Ma microfono? Sì, ya. No, non ce l'ho presente. Ma già Bernino, non è. Claudio ce l'ha l'airbag, quello di Pilanci, era un airbag. Ma lo sapevo, ma microfono radio sta parlando? Eh beh, la radio ci avrà anche il microfono attaccato. Un airbag Claudio ce l'ha perché gliel'ho regalato io. Ah, butta. Lui ha detto che era di Pinacchio. Ma cosa? Allora, un baracchinetto c'ha lui, con canali e tutto. Ma io l'ho regalato io quello. Poi, io sto parlando di microfono, Però, io credo che l'ho regalato la radio Airbex. Beh, la radio Airbex ci avrà un microfono Airbex o c'ha un altro microfono? No, gliel'ho data senza microfono. Ah, ecco. E io c'ho l'originale, il microfono di quella radio. Ah, ecco. Andava. Cava gara, avanti Giuseppe, Giuseppe tornato, mi sembra che è andato a farsi la luce. Chi c'è rimasto qua? Luca? C'è Luca e Lupo Grigio, perché gli altri sono tutti scomparsi. Ho chiamato Giulio, non ha risposto, ho chiamato Eugenio, non ha risposto. Si sono allontanati sicuramente. C'era anche Antonello Diussi, mi sa, vero? Antonello stava chiudendo il Galaxy che ha aggiustato. Avanti Antonello. Vabbè, là, fai riprendere al Lupo Grigio. Non so se a me mi ascolta. Lupo Grigio, mi ascolti? Sì, sempre, vabbè, solito discorso che ti fanno tutti, radio un po' bassa, sa che in Santiago qua è 5, zona di punti. Sì, è comprensibile, il problema arriverà fra qualche settimana, che a te non ti ascolta più nessuno, perché quando si apre la propagazione che arrivano forte da fuori, a te non ti ascolta più nessuno. La stessa cosa che ho detto io Massimiliano, se sale la propagazione tipo 9.20 non arriva più lui. Guarda, ti faccio un esempio, avantieri forse domenica, c'era un bel po' di propagazione, io non sentivo a un ragazzo che abita la Teloggia, non lo sentivo per niente e mi arrivava a Santiago 9 lui. Cioè quando c'era il passaggio che non parlava nessuno sentivo che mi chiamava, ma poi quando si è aperta la propagazione, mi dispiace, ma se i segnali sono oltre 9, se tu non arrivi oltre 9 a tutti non ti ascolta nessuno, neanche quelli vicino se ti fidi. Aspetta, quante volte è capitato Massimiliano, la propagazione non mi sentivi, ma diglielo. Aspetta, ti ho parlato sopra, va, riprendi Nicola. Ascolti la gente che arriva da fuori, capito? Per esempio, domenica c'era un segnale di 9.10, 9.20, come faccio ad ascoltare la della Sassari se mi arrivi a Santiago 5? Chi è IFM? Mi è sembrato Walter. Ha ascoltato Falcone, così è. Ci sono già questi spagnoli che stanno parlando, già a te l'ho coperto Lupo Grigio, io non ho capito quello che hai detto, perché questi spagnoli stanno arrivando a Santiago 8. E non so, dipende dalla propagazione, a volte riesci, a volte non riesci. Sentito, là, questo spagnolo a me mi sta arrivando 9, cosa ha detto? Le rispondo io, è un canale che abbiamo scelto noi per fare salotto, abbiamo deciso di prendere questo canale con Claudio eccetera e stiamo tutti qua la sera, capito? Potevamo scegliere 11, 12, 13, non c'è niente in particolare, è solo che abbiamo scelto questo, così, perché ci ha dato di scegliere questo e basta. No, spiegami già della propagazione, che a volte arrivano segnali da fuori che sono oltre i 9 e a lui non ascolterà più nessuno, anche se sono vicini, è quello che gli stavo spiegando. Te l'hai già detto tu, Massimiliano, si accontenterà di ascoltare la gente che parla, non so cosa dirle, noi ne l'abbiamo detto da tanto, mettersi un'antenna non ne vuole sapere, cosa possiamo fare, se avesse pensato da prima a mettersi un'antenna magari sarebbe stato tranquillo, dai. spagnolo a me mi sta arrivando tra gli 8 e il 9. Brecco? Sì, vabbè. Un secondo, Capito, lupo grigio, e purtroppo la propagazione funziona così. Quando ti arrivano quei segnali forti forti, se tu non superi quella soglia, anche se sei vicino non ti ascolta nessuno, capito? Avanti, Robè, buonasera. Sì, ciao, buonasera a tutti, ho sentito Massimiliano, Luca, Gianni e Nicola, poi non so se ci sia qualcun altro, eventualmente ditemelo. Per il momento siamo solo noi, come dice la canzone Vasco Rossi. Generazione di sconvolti, comunque anche qua sta arrivando forte questi spagnoli, comunque in ogni caso io a Nicola ascolto 9 più 10 abbondante, non ho problemi, i segnali sono intorno a 9 quelli degli spagnoli. Ma aspetta quando sarà la propagazione. Vabbè, è quello che gli stavo spiegando, capito, però vedi, adesso ti faccio un esempio stupido, no? Questo spagnolo ti sta arrivando 9 e Nicola ti arriva 9-10. Quando si aprirà bene bene la propagazione, che c'è i segnali 9-15, 9-20, tu a Nicola non lo senti più. Sì, sì, è normale quello, sì. Ma già l'altro giorno, quando c'erano quelli di Taranto, Lecce, quelli c'era, la gente arrivava 9-20 qua, quelli lo schiacciavano completamente, ma schiacciavano anche a qualcuno di qua, di Safe, senza cercare a Nicola, che Nicola, diciamo, è in situazioni un po' di emergenza. Qualcuno non ha, sicuramente veniva schiacciato da quei segnali lì, c'era una propagazione durata anche abbastanza, io sono rimasto quasi un'oretta parlando con questi tipi di cose, Taranto, Lecce, Brindisi, Monopoli, Casarano, eccetera eccetera, c'era gente che arrivava a 9.20, ma a bomba proprio, sembravano telefonate. All'inizio pensavo fossero di qua, di zona, invece no, poi come ho visto che parlavano ho detto no, siamo di quella zona lì. Ok, facciamo rientrare a Luca, poi farà girare per Gianni e fate l'ordine voi di chiamare. Sì, dai, sono rientrato, dai. Sentivo un rumore che stava la matrice uscendo basso, ci vuole buttata, poi funziona bene, scarica, lava, tutto, fa un casino della Madonna, sembra un elicottero la lavatrice. Ma il cuscinetto lo puoi cambiare, lui. Come cavolo fa a cambiare il cuscinetto del cestello, me lo spieghi? Perché è chiuso, è intattolato. L'altro di tutto. Ma forse con lampada. Ma no, non si può, è nel dove c'è la corona, diciamo, la corona grande lì. Non faccia, ci vorrebbe, la devi smontare tutta, là. Non è conveniente, infatti Luca, io ne ho una nuova, poi lo so, vedi, sembra uscendo dal negozio, una Indesit, quando c'è, ormai sono tutte con la vasca in plastica, ci costa troppo fare lavoro, fai prima, adesso le trovi anche a 150 euro le lavatrici, quelle semplici, se ti metti a aprirle, a farle, a smantellarla, perché l'hai dovuta smantellare, ti costa di più. Me l'ha sconsigliato anche un amico, che lui ha lavorato una vita alla Zanussa, ha detto, la stabilì, fai prima a comprartene una nuova, a meno che non c'hai una di quelle con la vasca in acciaio, in metallo, con quelle lavori un po' meglio, queste in plastica scaldano, poi ci butti tutto, la sede del cuscinetto come ha scaldato, non ci sta più il cuscinetto e hai fatto lavoro per me. Ma infatti, dai, ne sta col motore, perché dato c'è la 25 uguale, è capitato che lì si è bloccata, non andava più, gli ho cambiato i carboncini, è ripartita, sta sempre funzionando, però anche la sosta iniziano già a fare un po' di rumore strano, dai. Non come questa, però fa rumore di cuscinetto imballato. Andava, avanti, vediamo un po', Lillo, ci sei? Io la mia l'ho riparata. Allora, con il motore tuo le fai il giro arrosto. Davvero? No, vabbè, tanto lo recupero il motore, Massimiliano, perché non ho recuperato uno dalla matrice lo stesso? E poi ho recuperato il carboncino nuovi, l'ho messo lì alla 25, là. Se no si deve comprare la matrice nuova. Il giro arrosto ti fai? Allora, vai un arrosto, burro, io faccio il giro arrosto, tu vuoi un arrosto, mi sai? Ma è girato un po' veloce, non mi dà male. Non mi dà a cucinare un pochino, coia. No, io gli ho cambiato, il perno si era spaccato, il perno dell'oblò. Ci ho speso 200 euro, però la matrice mia è all'oblò di quelli buoni. E mi ha detto che non ne fanno più così, che fanno tutto in plastica adesso, che conviene aggiustare quella. Dice, potresti comprarti una lavatrice nuova, ma conviene aggiustare questa, perché così non ne fanno più. E i pezzi si trovano ancora, e gli ho cambiato le cose, ho speso 200 euro, dico la verità. Ma dipende che lavatrice ce l'hai un po' di anni. Perché già, adesso le lavatrici hanno tutto quanto il cuscinetto con l'albero tutto fuso dentro la plastica e non usiamo più il cuscinetto, sicuramente una lavatrice un po' più vecchiotta, le nuove sono tutte così, io lo stesso ero la Candy, 3 anni fa ce l'ho buttata, il cuscinetto si è imballato, però era tutta la fusione e lo si poteva cambiare. Babbo c'era 40 anni e ogni tanto diciamo cuscinetto se pendente. La mia è una Whirlpool. E la mia è una Samsung. Allora chissà, ti fate la musichetta e ti fate il burro, allora me le scendi. No, io adesso se me la compro di quelle con lo blob grande, di quelli tipo industriali. Ma io l'ho presa 11 kg, sono già 3 anni forse, va più che bene già, va benissimo. Ecco, avanti. Buonasera a tutti, Gianni da questa parte. Ciao, ciao, salutore, avanti Gianni. Ehi, no, non so chi c'è, ho acceso la radio adesso. Non so chi ci sia in salotto. Comunque, buonasera a tutti. Allora, in salotto ci sono io, da tipo Massimiliano. Avanti Massimiliano. Ok, allora, lui è in salotto, io sono in camera da letto. Nel bagno ci abbiamo Roberto Quadrato. Avanti Roberto. Io. Comunque, ciao Gianni. E non sono in bagno, comunque, dai. Va bene, dai. Comunque, le lavatrici, se volete spendere soldi, una lavatrice definitiva, prendete quelle trazione diretta, come giradisco, non c'ha né cinghia né niente, c'è il motore direttamente sul cestello, è vinito, non si sfascia più, c'hanno 10 anni di garanzia, costano un po' di soldi, la LG l'ha fatta, le prime sono indistruttibili. Aspetta, c'è stato un altro sotto prima di te, chi è? Avanti. Sarà a pranzo. Eh? Sarà a pranzo. Chi è? Oh, vabbè. Ciao. Kawasaki. Era ora, Zacchi. Tony, ma sei cupo, cioè non cupo, sei un passato di radio, ma va. Vabbè, uno si presenta al limite, io lo conosco. Non è altro nuovo, scusate, buonasera a tutti. Un io Cavattappia, non l'hai conosciuto Massimiliano? No, non l'ho conosciuto. Non l'ho conosciuto e... va bene, dai, ok. Anche se sei nuovo, non sarai nuovo sicuramente, ma... riprendi, vai. Massimiliano Bulldog da questa parte. Ciao Massimiliano. C'è una radio troppo predicata, ma come segnale. Grazie, comunque, buonasera a tutti. Sì, vabbè, già va bene, no? La radio sto usando mezzo watt e sto usando una radio classica normale con un CTE amplificato me, Roberto Quadrato mi dà il suo giudizio. No, va bene Robert, dai, no, ma ci Robert, Massimiliano. Non io dico sì, sono a voi ti devo cacciare vite e ti faccio video segnale, allora usa Caimo. Ehi, buonasera a tutti. Ciao, niente, oggi mi sono amplificato invece il giardino, l'impianto elettrico, adesso ho tanta di quella luce che sembra mezzogiorno. Ma non è che ti è tagliato di peli, no? No, ma fate scherzo, ho messo i pareti vetrolisti, dalle sfere, insomma quanto, tutto sotto traccia, sotto i mattoni, capito? Quindi è in cazzo, fa come lavoro. Ma giù facciate un culo, ma. Vabbè, interessante che si è soddisfatto di quello che hai fatto da voi, già si riposa uno e si rilassa, dai, tanto in questo periodo cosa vuoi fare, se non si trova niente, a Roma con su vai, no? C'era anche Natalino si deve essere scocciato se è andato. Facciamo riprendere Nicola invece che è un po' in stand by, avanti Nicola. Aspettate un attimo, sto parlando. Io vuole entrare avanti? Vabbè, dai, facciamo una cosa, dai, mettiamo in ordine tutto l'ambo la dama. Riprendi tu Gianni Lombrofetta, dai, fai girare tu, vai. Venga, c'era Nicola che stava salutando, aspetta che lo facciamo entrare, avanti Nico. Ciao Nicola, ben sentito, anche se ti ho sentito per pochi minuti, dai, avanti Luca. Ciao Nicola, salutoni, dai, a Correa e buonasera e buon tutto, da domani, se coincide, avanti Gianni doppio Ru. E dai, ciao Nicola, buona continuazione di serata, grazie per il questione, ci sentiamo domani, avanti a chi spetta. Ciao Nicola e buon pomeriggio alla prossima, avanti Massimiliano. Ciao Nicola, buona serata, buona continuazione, buona carica, buon tutto, alle prossime. Tu ne arrivi 9 comunque, mi Tonino, un bel segnale, ma non so in che zona sei. Campagna oltre Sassari, 3,5 km circa. Però ti devi chiamare la radio che è bassa. Il microfono deve spiccare un filo, c'è qualità di 3.000 tavolo. Non ha giocato, mi interessa prima finire tutto il lavoro, ce l'ho a fare qua. Poi con calma mi stacco col filo, perché mi va in mezzo, ho capito. Aspetta, anche io sono in campagna, io sono zona di punti, no? Però campagna, un po' più giù. Dai, io sono a San Camillo, dai. Allora, Puglia, che va bene, no? Comunque tu mi arrivi in off. Aspetta, questo se vasi a smettere 4 voci, allora, sei a San Camillo. Cosa? Sei a San Camillo, a Costanza, vado a girare lo Smith e 4 voci. Ma perché? È basso o è normale? Oh, Rico, c'è un amico, dai, un amico lì, è zona tua, dai, adesso però non c'è, è andato via. E ho detto che se parlavi tu o parlavo con lui ti passava qua, 4 giri Smith. Addirittura. E io mi sono più dici, tu cosa hai di Massimiliano? Sì, abbastanza, no. Abbastanza. Tu pensa che da San Camillo lui qua a me ne arriva a 9.30. Guarda, è che non è buio, se no mi costa uno a me, compare a me 2.000, 2.000 watt, liscio pure una stretta. Ma lui non c'ha 2.000 watt, non è che lui liscio così con 5 watt ne arriva a 9.20. Vabbè, là, ma sono anche un po' di radio, un po' spinta, là, diciamo così. Bonino! Scusa, faccio dire, dico solo una cosa, di Gianni Dolce lo sa questo. Tempo fa abbiamo fatto la gara con la Bonanima di Cemento per la Torres, io e Claudio, ma nel sulle due di via a Bocchettone e Claudio c'è forte Donalza. Ma se vedi calzura che sei lungo, come ti vai a va? E io lo sto scherzando, dai. Ah, lo vedi allora. Ma hai detto lì 30 anni, no? Più, da 74. Yes. Dai via, vai su conto. Attenzione, Tino Mosa. 45 anni, ciao Tino, va. Ebbene Tino, ciao, ben sentito. Ciao Torino, buonasera a tutti. Ciao Tino. Ciao Tino, buonasera, va. Avanti con me. Ciao Tino, buonasera. È nuovo, ciao Robè. È nuovo da quanto non parlare a Torino. Qualche anno sulle spalle di essere anche lui. Ma io l'ho già sentito qualche altro giorno, quindi la giunta puccia. Va bene, vai Rubrofè. Ciao Tino, buonasera. Ciao Torino. Gianni qua dalla stazione ferro tranviaria. Torino era un pimballe prima, io mi ricordo Gio Pincello, era un pimballe, poi era diciamo l'amante di Falcone, vero Torino? La mazza di Vania, si è cantato giunto il campo di tutti i morti. La tua è più alta, lo so prima che era più basso. Ah, in Torino Cavazzacchi, lo facciamo il gioco della calza. Qua che lo facevano con te il gioco della calza. No, non penso brutto. E ha detto pure che l'hai ingannato. Eia, ho gasbo. Avanti, Luca. Eia, ho detto che stavo salutando a Tino e a Torino. Ciao, ciao, dai, io rimango in quel rischio e sto facendo una cosa al computer, riprendo l'opera. Fai girare tu, Gianni. Eia, va bene, Tino, dai. Continua il tuo lavoro. Cappa. Riprendi tu, Luca. Sto aspettando la pizza io. Alle 8:15 mi arriva, allora. Leggermente piccante, ma la margherita mi sta prendendo, se no poi non ce la faccio, è troppo pesante. KK, te ne levo questo coso così, tu bene mi stai ascoltando? Una bomba sì qua, come segnale, come anche radio. Andava, dai. Roberto Quadrato a te il microfono, vai. Cosa vuol dire? Per parlare, ho ascoltato, dai, oggi c'ho poca parlantina. Tonino, forse una volta di sfuggito l'ho sentito di recente, ma tempi fa come c'era lui, dice lui, io non esiste come frequenza, per cui non posso dire niente, solo di nome, molte volte l'avete nominato negli alburi, diciamo, della banda cittadina. E una domanda, dove sei? Metto San Camillo in che zona, se lo vuoi dire naturalmente, Tonino? Diciamo, via avanti San Camillo. Diciamo, ma non all'interno, diciamo, dalla struttura, diciamo, verso il campo di calcio o dall'altra parte della strada? No, proprio sulla strada statale 200, proprio sulla strada. Ma sei nato tu di altezza? Ma un po', diciamo, e praticamente dal cancello devo fare 150 metri per arrivare a casa mia, sono all'interno, però non è molto, non è che devi fare la strada, diciamo, Viottoli per andare all'interno, no, è proprio l'ingresso alla strada statale. Ehi, allora perché in quella direzione lì, passando verso il campo, però il campetto dove c'è la chiesa di San Giacomo, con le strade lì, abbiamo i miei genitori, mio babbo, la campagna di un po' all'interno, dai. E comunque mi sentono abbastanza bene a Sassari, dai. qua sei 9 più 15, a me come mi ascolti? Dammi anche un controllo di Santiago, sentirei bene. Allora, qua sei 9.25, da radio 5 perfetta, amplificata. E tu che condizioni sei, che antenna hai di ricezione e di trasmissione? Ma io ho un'antenna di cacca, capì? Gianni già lo sa che antenna oggi mi piace, ma carità, ne ho preso una. Cioè non sono più, ho preso un baracchino, mi ho rimesso tutto quanto un po' da capo per sentire gli amici, chi c'era, chi o meno, capito? Sono un po' un bel po' di anni che non è entrato. E una 50 ridonda, però non mi ricordo come si chiama la cinghia, poteva anche il capo, ecco, l'ho preso dal CPC 90 euro. No, signore, l'ultimo radio va bene. Ok, facciamo girare adesso, c'è Massimiliano che poi darà l'ordine agli altri di seguito. Avanti Massimiliano. Allora, io vi ordino oggi di stare fino a mezzanotte in radio. No, è mezzanotte meno un quarto, dai Massimiliano. È vero. Ma anche qua arriva bene, no? Qua arriva 9. Vabbè, io diciamo che per quella zona lì sono tutto favorevole, no? No, va bene, ok. Vediamo un po', c'era Giulio, c'era Giuseppe Tornado, c'era Eugenio, che fine hanno fatto? Boh. Io li ho chiamati e non mi hanno risposto, provo a richiamarli. Sì, vabbè, se vogliono entrare siamo qua, già ci saranno ascoltando se in caso, no? Va bene che bene, dai, ripeti tu Gianni doppio rumore, no? No, voglio sapere come è arrivato Nino, il segnale, come ti arriva? Così almeno sappiamo più o meno se abbiamo lo stesso segnale. Ciao, tu sei quasi 9.30 qua, eh? E tu invece sì, 9.30. Quindi il più basso sono io, là. Prova di nuovo. Poco fa mi ha detto, c'è una bella radio, forte, troppo amplificata, ma il segnale è basso. Guarda, sinceramente sta arrivando Santiago 9 con picchi positivi a 9.10. Ah, ok, vabbè, ok. Ma perché poc'anzi mi avevi detto che stava arrivando basso? E tu eri 9 invece, va bene, no, no, che più o meno è il segnale che tu hai uguale, va bene. No, guarda, allora, basta il segnale nel senso, come radio che hai, quindi dovresti arrivare 9.20, perché hai una radio potente proprio, ma il segnale infatti non è così potente, è quello che volevo dire, che si può fare. Ah, ok, aspetta, eh. Allora, io sto andando con un watt di radio, un watt solo. Però poi c'ha dei picchi di modulazione, questa è la verità, eh? Però come portante muta diciamo c'è un watt. Ma guarda che sto usando un semplice Patio 2030, non so se lo conosci. Sì che lo conosco, aspetta voglio fare un'altra prova, eh? Aspetta un attimo. Ok, allora così sono 20 watt, aumentato il segnale. Ah sì, 9.20, 20 watt, ma ti do a Gianni non a me. Perché non c'ho Gianni, ma tu c'hai il numero di questo Tonino, che se no ti posso la fotografia. Ma cosa fai fotografia tu a me? No, non ne ho il numero di Tonino, oramai l'avevo perso di vista. La chiamala Falcone 24364, ti dà il numero di Tonino. Naso. Non gli avevi dato il numero di Tonino? Eh? Non gli avevi dato il numero? A chi? A Falcone. Ma non si dà. Sai, una volta al mio gli avevano dato di casa, brutto passato, ti devo chiamare i piumi, oh, quando vedi il bassone, tutto quanto, non va via la bocca, nulla, non vedeva nulla, vabbè, non punciava, ma da voi, te ne andavi a casa, e poi la venete dal baracchino, da figlio di puttana, chi più ne ha più ne metta, e la fatto, siamo che ci ha poi tornato il bassone, cosa hai detto? No, nulla, non vedeva nulla, non vedeva ma. Ho dato lì. Il numero mio ce l'avevate voi. Non ho capito. Il numero del telefono mio ce l'avevate sia Gianni che tu. Tony, se sei sempre lo stesso. Ma io vabbè ho cambiato il telefono una volta. Facciamo più telefoni io, grazie che mutandi ero così freddo. Se mi dici gli ultimi due numeri finali, dico se è sempre quello o no. No, non ce l'ho più per il numero tuo, Tony. Assolutamente no. Non ce l'ho con un amico su Facebook. Allora. Io non le do perché ripeto, non voglio che la notte voglio dormire tranquillo, non voglio che poi dopo mi fa gli spiegini. Comunque, vabbè, aspetta, allora. Com'era Antonio su Facebook? Com'era? Il mio Luca Poti che comunque là, c'ho una camicia bianca nella foto. E la foto quella del come si chiama? Della storia c'era. Siamo in un gruppo là che stiamo portando la Madonna. Siete sopra i cicciati. Con Gianni, no? Sì. Dove Gianni, dito veloce, avanti già. Ah, io no, io non ho bisogno di super partita, insomma. Sì, vabbè, dai, comunque, io non ce l'ho, c'è un telefona di chi non ha più il numero lui. Ho cambiato tanti telefoni, anch'io ho cambiato scheda, ho cambiato sempre di roba, quindi non ce l'ho più, ma comunque non c'è problema. Se lo puoi dare qua, lo puoi dare, dai. Non c'è nessun problema, non ce l'ho più fatto. No, ma non è per voi, perché l'avrei dato ben volentieri. Ci sarà qualche tardona che può rompere palle, come è sempre successo. No, quindi è tardone, va. Oh, almeno ci fosse, non ce n'è più di dopo. Non ce n'è più. Ma non c'è che te venire in ascolto, per manco bene il capo, vai. No, io non ho problemi. No, io, grazie a Dio, non ho mai avuto problemi a... Se mi dici, com'è Tonio adesso, Fisco, come sei? Sei venuto, allora me la presenti a me, va a Napoli, mi hai fatto perdere tutta la stupida. L'ho scienziato pazzo. Come sei Tonio su Facebook? Come? Tonino? Antonio. Ah, Antonio? Vabbè, cognome non si può dire. Allora voi sapete troppo, mica i bambini non ce l'ho mai. So. Tu già ce l'hai il numero di telefono di Luca? Di Luca, sì. Luca, me glielo dici. Boh, Antonio, venisso, no. Vabbè, c'è Antonio. Antonio, Giotto, Antonio. Ghito. Prima ero tu di Chicco su Facebook. Oh Luca, secondo le trovi? Tony Chicco? Prima sì. Ciao ragazza, andiamo bene vera. E cosa, Eugenio, ho sentito se lavorando? Mi sa di no, perché si è bevuto una bottiglia di Jack Daniels. Ma così no, perché dice che la Tirrenia è bloccata. Sì, l'ho detto anche poc'anzi che la Tirrenia è bloccata. L'hai visto lui, ti ho mandato un video. Oh, è Claudio che fine ha fatto? Sì. Claudio, è già un paio di giorni che non lo sento. Sì, sono a fondo da un buco. Ok, sicuramente può capitare a qualcuno, anche a me è capitato qualche volta, non avevo voglia di entrare, accendevo e sentivo, facevo l'ore di porco, come diceva Coso. Mario Vanni. Cava. Luca, qua che ti ho mandato il cognome di Torino. Vabbè, puoi passare su 15 un attimo? E io. Cappa, anda bene meno, avanti Torino. Non lo trovo già. Come non lo trovo? Non lo trovo, Antonio o Torino? Antonio. Non ci sei, non ti trovo. Nome su WhatsApp. C'è prima cognome e poi il nome, Antonio. Ma c'è uno sottofondo, ma pio, e così dice. Niente, no, non mi dà solo... Ma che c'è una punta bianca, c'è? No, c'è un cane. No, niente, no. Contrario l'ho scritto. Cognome e nome, nulla, non me lo dà, non ci sei. Il nome non ti trovo. Cazzo, 5.000 amicizie ce l'ho. Gettonato Torino. E tu ti faccioggi pure. Così. Maria. E allora dividiti un po'. E chi era questo sottofondo? Lui non è da nessuno. Non è anche il mio finale, cazzo. Questo è il mio. Noni. Vieni. Cazzo Santiago 2, tu non sei Santiago 2, no? Capiti come? Oi. Insomma, io sono più mezzo capottato là dentro. Quindi più, voi che avete la bella antena trovando, però non intendete. Dipende dalla zona. Guarda che quella che tu non è brutta come antena, non ha circondabile. Solo che il materiale è più fino di quello della mantova, capito? Non è robusto come la mantova, se c'è molto vento si cipigia. E quello è il problema che c'è. E quando mi cipigia se ne va pure comprare giù un'altra. La mia è zona B, di zona. Ma se non c'è vento in quella zona lì, c'è in campagna, non è via molto più. Sì, anche la vento qua, cazzo. Ha sentito un casino la volta, lo vento che ha fatto, c'avevo la porta appoggiata, era fatta curare. Ah sì? E allora se senti qualche rumore potrei volare dall'antenna. Sì, già una diana mi è caduto, e infatti ho detto io, cazzo freco. Quando è il sacco sopra, ma non la giocano, se sapevo. Tiranti, messo un eretto. Due. Ma che due? Tre se ne metti. Cazzo, perché non ce l'ho posto a mettere il tetto, lo avevo pure io. Io addirittura ne ho 8 anni. Ah già, io avevo intenzione di metterla dove volevo io, con un palo minimo da 12 metri. Però da solo, un casino, io ho messo un palo da 6 metri, da solo. E volevo più posizionare, vado a posto, non mettere le stampe come ho fatto io. Volevo mettere un bel traliccio, invece le palle. Ho tutto cambiato, e tutto bene, la fretta. Ho messo quello che ho messo e va bene così, dai. Interessante, sì. Quello è importante. Avanti, Maciulia. Non c'è più Maciulia. Oh, ma Massimiliano, sì sì. Da Magnano. Luca, Roberto Quadrato. Sì, so niente, no, abbiamo fatto solo una prova di radio. Una differenza tra un tipo di microfono e l'altro con Gianni Ubroffetta. Ok, riprendete, facciamo riprendere a Gianni Ubroffetta, dovrebbe esserci anche lui qua. Avanti Gianni. Ehi, Tonino, mi dici come ti sto arrivando io qua da zona stazione con la boomerang? Sì, se sei con la boomerang allora 9 e 18 con esattezza. Caparro, smetto, anche tu sei 9 più, la radio rispetto agli altri è un po' bassina, però ti ascolto bene, dai. C'è un microfono di... non voglio dire di cacca, peggio. Una braffoniera, dai. No, il microfono buono ce l'ho in posticcio. Quando la provoglia, allora glielo cambio il cacchio di filo, dai, glielo metto a posto. Devo dissolvere un filo soltanto. Vabbè. Mi interessa più finire quello che... ho il progetto per la campagna, già. Kk, eia. Benemeda, benemeda. Avanti, Roberto. No, quello che mi impressiona, cioè io non riesco a capire molte volte la logica delle antenne, delle radiazioni delle antenne. Tu abiti in una zona completamente scoperta rispetto a me, cioè nel senso disagiata, perché sei molto più in basso di me e c'è un segnale a bomba, considerando che stai utilizzando un'antenna, non è un'antenna, diciamo, di caratteristiche eccelse. Il segnale, la potenza tua è quella delimitata dall'apparato, per cui stai arrivando a bomba. 9 più 20 sempre il tuo segnale, è molto più forte di altri che hanno antenne più forti, diciamo più performanti. Infatti non riesco a capire come mai, forse c'è un canale verso la zona mia, perché io sono dalla parte opposta della città, sono molto in alto, probabilmente io con l'antenna mia c'è una direzionalità che riesce a ascoltarti meglio, ma c'è il segnale molto più forte di altri che hanno antenne potenze più superiori alla tua. Sì, vabbè, la parte alta di Sassari praticamente ce l'ho alla destra e quindi sulla sinistra sono aperto verso la Siena, a Porto Torres, a ovest, poi a nord, vabbè, c'ho tutta la montagnetta qua per andare verso San Camillo, e niente, poi dietro la zona OCT si è aperta. Sì, no, non sto dicendo quello, ma considerando che tu, dietro alle tue spalle, io abito su, diciamo, dalla zona alta di Sassari, parliamo Serra Secca, diciamo, dai, Quadrata, eccetera, di lì ci sono centinaia e centinaia di palazzi che ti coprono in altezza a te, per cui non riesco a capire come mai arrivi così forte, considerando che non hai un'antenna altissima, diciamo, di alte prestazioni. Ma anche l'apparato c'ha più parte, bisogna controllare il contatto. Apparato, e tanti watt deve avere questo apparato per arrivare così forte, già. 8 watt misurata a strumento. Aspetta, te parlate in due, cosa hai detto Gianni? Che minimo ne da 20 di watt l'apparato che c'è? Negativo già, sono 8 watt a strumento. E l'antenna comunque che... io non l'avevo mai visto, non l'avevo mai visto che andava così bene. Qui c'era quella di... come si chiamava? Vabbè. Però lì andava, arrivava a scrempate anche a portatore, ma l'aveva messa su pezzo. Aspetta, c'è stato qualcuno che vuole entrare avanti. Ciao, ho trovato un messaggio, non riesco a trovarlo, non c'è, non so, con il cane non c'è. Ah, hai detto Luca, no, allora non sono uscito in radio perché ho visto una portante su 9.30, ho detto boh, chi è? Massimilia. E si deve essere allontanato, non io ripeto. Grazie, il microfono perché non me ne vado. Quanto carica batterie, dai? Ci sentiamo alle prossime, saluti circolari perché me ne sono troppo aiuta, ma non la metto più. Ci vediamo, Luca, Gianni, pure calcio, veramente. Tenetevi salutati, buon coletti quando lo farete, buon carica batteria. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao Tony, ciao, ripeto io, dai, buona carica, ci sentiamo. Avanti, Roma. Ehi, ciao Tony, anche io adesso stacco qualche minuto e devo fare una telefonata, Mario, se ci sente dopo ci sentiamo, dai, interrompo per un po' io. Ciao, ciao, ciao Tonino, ciao Gianni, Luca, Massimiliano, Gianni, come si chiama, Gianni Rubroffetta, e poi non so se c'è qualche donato, dai, provo a telefonare, se non si trattiene troppo la telefonata, Mario, ci sentiamo dopo, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao Roma, ci sentiamo. Buona carica quando la fai, dai, mi saluto anche io, allora tanto la gente va, dai, mi saluto anche io, ciao a tutti, sono venuto in casa la carica batterie, ci sentiamo. Ciao Gianni, doppio nome, ciao Roberto, dai, ciao Antonio, anche a te, alle prossime, devo aspettare ancora le 8:15 per la pizza, vabbè, se c'è qualcuno ancora, se no c'è acceso qua. Ciao a tutta la truppa. ciao a tutta la ruota, dai, quasi. A doppio a Tonino e a Roberto. Vabbè, a chiunque fosse in ascolto, dai. Comunque, dai, ci aggiorniamo. Mi arredo, vi fai già. Ciao, buonasera a tutti, dai, scusate che ero qui a Capiccolo. Non so se mi avete cercato, ero là. E stavo chiamando poco fa per Massimiliano, Massimiliano, ma? Non più. Ero nel quartier Capiccolo, Luca. Vabbè, stavo dicendo che là, capisci a me? Ha visto la vita? Ho visto, stavo capito a me. Sì, no, usci no. Non c'è gusto, no. No, ho spento. Invece la ruota, no, uno che in mezz'ora, tipo Falcone. Infatti. Ma tu per quel coso lì hai qualche antenna buona? No. Ce l'ho, però la devo far vedere a Luca, me l'ha costruita lui. Sì, anche a me me l'aveva fatto una lui, ma c'è un po' di stazionario. Poi ne ho una piccolina, insomma, una supposta, non so che fine ha fatto, a proposito. Forse la tasca del pantalone, aspetta la mando. Ti posso dire se vive, Il cabu. Sì, è una supposta. Questa mi si è rotta, mi dispiace perché questa da qua dov'è riceve bene, però mi si è rotto una farina che c'è all'interno. Ho provato a saldarlo, ma non fa cazzo. Quello lì, aspetta, facciamo vedere. Ah, ho capito. Cosa facevo io tanti anni fa? Sembra uno simile a questo. Vabbè, comunque, interessante che riceva. Te lo stacco, ti faccio vedere quello che mi serve. Non so se tu hai qualcosa oppure lo vendono, boh. Spero che lo vendano, se così me lo ordino, capito? Se no, grazie, un casino, sta cosa. No, ma si manda. Aspetta, lo stacco. Perché mi devo salutare, mi hanno appena chiamato, ok. sì, mi c'era lui, dunque era in frequenza, poi c'era un lungo dialogo o monologo, per così dire, tra Gianni e Coso e Nicola, e vabbè, qua allora mi sono allontanato un attimo perché erano venuti i miei partiti. Sono sceso giù, adesso sono giù, cresce che vado a spegnere il barattino, infatti stavo pensando, ma sono lasciato il barattino acceso, probabilmente mi hanno chiamato, non c'è più nessuno adesso, invece ci siete voi, vabbè dai, comunque devo fare la chiamata adesso per andare a tavola, dai, ci sentiamo. Ciao Luca, a domani. Ciao Massimiliano, a domani, grazie, ciao. Ciao, ciao Giulio, ma noi meno male con Luca, anche ieri siamo arrivati un po' di più perché sembra che cazzo dalle 8:20 alle 8 ci sia il coprifuoco, tutti spariscono. E va bene così, va, ok. Dai, riprendi Lu. Ciao Giulio, comunque, buona serata e buona continuazione. Ciao, avanti Lu. Ehi, ciao Giulio, va. Buona sera, buon tutto, a domani. Senta che abbassa un po' qua. Ok, cazzo Massimiliano, sono stato un attimo, vabbè, io prima lo so, sempre a mezzogiorno, le metti lì, una metà manetta, che aspetta di brutto le cuffie. Vabbè, ci ha mandato la musica, no? Allucinante il radio, allucinante. Infatti lo metto così. E niente, poi uno di questi giorni devo andare a vedere un po', cioè non so che poi se mi fermano cosa dico, come stanno a prendere, me l'ho spiegato per le cuffie. Se ti fermo lì c'è stata a comparti l'acqua, la spesa, la sagatina, hai comparti il respirato delle cuffie. Sono fuori zona Massimiliano, via 4 novembre. E come vai, a piedi o in macchina? No, entrambe, se vuoi vado a entrare a piedi. In moto non possiamo manco spostare che ti fermano subito. E si basso, io una moto con due. E da lì, vabbè, non è lontanissimo a piedi, però a piedi c'è più possibilità di fermare una testa. Sì, appena ancora a Biggio. Non fa. Ti prendi la macchina, no? Ti fa accompagnare. No, negativo, con la macchina posso prendere perché ce l'ha lì. Dovrei scendere giù a prenderla, capito? E vabbè, adesso vediamo, là. Perché è fastidiosa una cuffia solo. È fastidioso. E non ce l'hai uno spirotto molo, cazzo, da qualche altra parte? Cazzo, io ce li ho Massimiliano. No, ma sono tutti serio questi qua, sono grandi poi. No, non ne ho. Se no, mi tocca tagliare e mettere uno molo, ma non lo rovino, là. Aspetto e poi si vedrà. Tanto domani è il primo. Questo il 3 dice che forse siamo tutti liberi domani. No, l'ho già prolungato fino al 16, mi sembra. Di balle, va. Guarda, questo, cioè perlomeno io uso questo, ma io la verità, se le cuffie le devi usare solo per quella radio, taglio e buone e via. No, quelle cuffie me le uso anche per... Sì, questo qua mi serve a me. No, Massimiliano, le uso anche per il telefono. Allora è diverso, se le usi solo per... Io per esempio quelle che ho, quelle sole le uso solo ed esclusivamente per la radio. Sono iniziati di Vici, ma sono di marca, da, non mi dispiace rompere la spinotta, poi iniziare a dare problemi. Preferisco lasciarle così, capito? Via, che casino, qualche spinotto dovrei avere di sicuro, mono, però non lo faccio, da, non mi conviene. Quanto costa? 2 euro, 3 euro? Ne volevo anche lo Costanzo. 1 euro costa, cosa? Io l'ho pagato 1 euro, ne ho preso 2. Ne ho preso uno agganciato alla radio, uno ce l'ho di scorta. Questo ti ho mandato la foto, ce l'ho di scorta. Non si sa mai, può succedere che, capito? Gava. Se non ti fai un paio di cuffiette di cellulare, capito? Usi poco e te lo usi con la radio e te lo metti con lo spinotto mono. Ma sai cos'è? Non era mai così cosa. Poi mi sono messo anche l'orecchino del coso, l'orecchio, però nel... non so come viene chiamato. Vabbè, nella parte più piccola, diciamo, dai, quella più grossa. Non so che nome abbia, ho messo l'orecchino e punizia di auricolare non entra. Ci ho compreso in quella specie di affarino di cartilagine. Positivo, cazzo, ma ci ho sofferto come un animale lì, mamma mia, ho sofferto proprio. Fa male, no? Cazzo, fa male. Altro 2 mesi ci voleva guarire, ci ha messo i piedi 2 mesi. Sì, vabbè, non è che te l'ho ordinato al dottore, no? No, assolutamente no. Infatti Maria si è messa proprio l'orecchio, nella parte alta. Ha tenuto un mesetto, poi alla fine se lo prende male se l'ha levato, tanto non se ne mette più. La prima si giuriava, ma lo voglio fare. Ho detto, guarda il tatuaggio è la stessa cosa, cioè il tatuaggio una volta che te lo fai, ma poi non te ne esci più. Perché se voleva fare le stelline nel collo, capito? Ah, ecco, ecco. No, mi stavo... la verità, ieri sera mi stavo riguardando il dottaglio... Cazzo, voglio vedere a te, cazzo, cioè, Mari, questo che tu mi hai più pochi di me, no? Tagliendo, motivato a voi, Massimiliano. Adesso stanno bene, ormai ti sei abituato, io non mi ci vedo, capelli, non li ho mai fatti, ma sicuro non mi ci vedo. Mi ci vedo come me li faccio io, no? Un po' a cresta, là. Cazzo, ti si blocca la macchinetta, voglio vedere come ti fai. Vabbè, Mari, a te ti viene meglio perché ce ne hai di meno o la metta. Cazzo, quando ho visto la macchinetta non tagliava più, ero disperato. Me la farei un infarto, me la farei. Sì, ieri eravamo in videochiamata con Domenico, quello che abita leggermente più giù di te. Domenico Cappi Manigra? Sì, Domenico, cazzo, il marito di Coso. Bah, niente di Giamma, stava a far Napoli, eravamo anche che la figlia balla, bah. Sara, dove è Conigra? Bravo, di Sara. Sono un bel amico con mia moglie. Ah, aspetta, ma forse non è quella ragazza che si era rotto il telefono, che me lo doveva dare, ma non penso che sia tua moglie quella. No, mia moglie non si è rotto il telefono. Io sto parlando di Domenico con Sara, Ieri sera eravamo in videochiamata, lui in genere si fa sempre i capelli alla vetta, no? E c'è capelli corti, a zero, è vero? Ma rimane via un po' con lunghetti e il pizzetto, ha detto, non sai che ti vado con un pizzetto, non l'ho mai visto, eravamo a Capoterra anche, quando un mese e mezzo fa assieme, abbiamo dormito lì assieme, là nel B&B, siamo miei amici. Gli ho conosciuto lì a Domenico, ci conosciamo da ragazzini, e poi sarà nata qua. Se abita poco più di casa mia. Sì. E l'ho visto quando è avanti ieri, mi pare. E c'era l'allello al bar lì e stavamo chiacchierando e c'era lui col bizzetto, con la mascherina, devi avere il bizzetto. E avevo il bizzetto, pantaloncini, arrivare così rende. Se sono parlato a prendermi il nostro recombi che era quello che è in videochiamato, l'ha già salutato, ero mutante. E ci conosciamo da ragazzi non domenica a voglia. Sì, non mi ricordo, allora, questa ragazza, ma non penso che tua moglie però, doveva riparare questo G5 mi pare, o G7 se non mi ricordo, il display rotto c'era, lo doveva dare a me, sì, questa qua è sparita, non penso, una tipo un po' robusta la rimane lì, c'è un po' robusta là. Forse tu stai dicendo Manuela si chiama. Non lo so il nome, non lo so. Non so dire come si chiama di nome, non me l'ha manco presentata, ma adesso solo c'avevo questo problema e basta. Immagino lì sicuramente, Manuela, un po' bassottina, robustella. Sì, bassottina, robustella, sì. Un marito napoletano, con lo cibulo. Mi pare ormai da napoletano, sì, ho capito, sì, già è lì. Via di Sicilia abito. Già è lì, sì. Proprio lì, pensavo che secondo me non mi ricordo, come l'ho vista cazzo 20 anni fa. Ehi, cavolo. Sì, siamo venuti, non mi ricordo cosa ti avevo portato, qualcosa insieme a mia moglie. Sì, via Bugino ci siamo incontrati, ma cazzo 20 anni fa. Mi pare che avevo salito il 48, una cosa del genere, forse una cosa così mi ricordo. Mi sa di sì, non mi ricordo manco io, sincero. Yes. Auto un quarto, vabbè, chi si a fare un po'. Come mi ha chiamato poco fa, 10 minuti fa. 10 minuti di chiamata, cioè 10 minuti ci hanno messo a portargli la pista, 10 minuti di orologio. Chi si cazzo di soldi bassi da me, che non ci posso andare oltretutto. E ancora non è arrivata. Ma quelli di fronte a te? Quello che c'è più giù di Lello, dal bar. Vabbè, potevi anche uscire a piedi a prendere. Non posso andare. Ma è chiusa, è solo a domicilio, vuol dire? E allora? Ecco, caso capito. Come voi, vabbè, tu... cioè, ti hanno fermato perché ti hanno fatto riprendere al lavoro. Ma è... perché se non lavori non sei pagato, Massimiliano. No, io... veramente a noi non ci hanno mai fermato, capito? Non ci hanno mai fermato perché il decreto per la nostra azienda non c'è, capito? Hanno fermato la squadra dei muratori perché lavorava a contatto, ma noi no. Ma sei rimasto un giorno fermo per pari? Solo un giorno, sono rimasto fermo il giorno che hanno fatto il decreto la domenica, il lunedì non sono andato perché ancora non sapevano come era la situazione. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, è un casino, cazzo. Un casino grande grande, Massimiliano. Vabbè, se vuoi qua. Ascolta, ti volevo chiedere, ma tu non riesci a sistemare quella spirale di quella mantova? E quale mantova? La tua, non c'è la mantova tu. Sì, se no, discorso, io non c'ho un po', il palo è telescopico, però è bucato in parte in parte. Perché quando l'abbiamo piazzata c'erano i due pali lì, invece di... c'era quello comunque, dai. Adesso è un casino, perché la parte che doveva innestare l'antenna è tutta arrugginita, Massimiliano. E poi quello che entra nell'altro palo, lo stesso lì è arrugginito, è un casino. Cioè, è un edificio di Santa Anna Palaiossola. No, allora, se tu sali sul tetto, alla spirale ci arriva? Se non ci arrivo. Neanche con una scaletta? Già sentivo sono di gomma, fatti di plastica. Lo so perché, sennò magari con un martellino avresti salito poco la spirale. Ma comunque di busto di massimo, vabbè, poi se magari dovessi procurarmi un 747, come si dice, mi salgo di più le stazionali, è vero. E adesso vediamo, dai, il tempo bello, Massimiliano, volevo cambiare anche il palo, volevo prendere un palo male più, insomma, un palo, come si dice, ringato, là, chissà non si va a nuda. Perché se riesci a sistemarti quella di antenna, io non l'avrei, cioè, se cambi il palo, ne scende l'antenna, ti regoli prima la spirale, capito, prima di salirci l'antenna, regoli bene la spirale anche con un martellino, oppure si taglia con la moletta, si mette la fascettina nuova, lo porti a stazionaria zero, perché poi già lo sai, se devi attaccare qualcosa lì con quelle stazionarie non fa. Ma infatti chi sua? No, ma io la volevo buttare proprio a terra, pulirla tutta bene bene e poi ripiazzarla. E quello ti sto dicendo. Perché Claudio mi aveva messo quel... Forse la pista è arrivata, Massimiliano. Perché Claudio mi aveva messo quel vulcanizzante largo, capito? Vabbè, ok, dai, vai a mangiarti la pizza. Ciao, Lucaria, ci sentiamo domani. Ciao, Massimiliano, domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.